elettrica, perché ci può essere tra antenna non accordata a quella frequenza ad un trasmettitore di differente frequenza. Ecco qual era il discorso. Poi si sono mischiate le cose, ma mi sa che Antonello non è in forma stasera, sinceramente non è in forma. Va bene, non fa niente, dai, ognuno si tiene le sue idee, non ci sono problemi. È tutto lì. Avanti, Vabbè. Che faccio una controprova, la frequenza non la puoi modificare di un'antenna con un accordatore, adatti solo l'impedenza, e la controprova, tu prendi un'antenna adatta per la 27, la Mantova, ed è in disaccordo, tu prendi l'antenna perché la Mantova è calata su quella frequenza, calcolata, risuona su quella frequenza della 27, però posso avere l'antenna in corto, è capitato anche a me, per cui non è più su quella frequenza, cioè è sempre sulla stessa frequenza con l'antenna in corto. Io prendo un accordatore dell'antenna, mi modifica l'impedenza di quel momento lì dell'antenna e me la linea con il trasmettitore. Però l'antenna è nata per la 27, però è in corto, mi è capitato a me, c'è testimone Claudio se c'è o se vuole intervenire, l'antenna della 27 è nata per la 27, però è fuori impedenza perché è in corto. Io prendo l'accordatore dell'antenna e mi regolo l'impedenza dell'antenna. Io non posso modificare la frequenza di quell'antenna perché la frequenza si misura con la lunghezza d'onda, ci sono dei calcoli specifici, e la lunghezza d'onda ci avrai quella frequenza lì. E basta, tagliata, non ci sono altre soluzioni, Giulio. Infatti io ho detto quello, io ho detto che l'antenna si accorda alla frequenza di l'impedenza del trasmettitore, capito? Non è che uno da un'antenna da 7 metri la fa diventare un'antenna per i 2 metri, no, nella maniera più assoluta, lo sappiamo benissimo che la differenza fisica dell'antenna è importante, però quello che voglio dire io è che la lunghezza fisica di qualsiasi antenna si può accorciare tramite l'impedenza o allungare accordandola a un'altra determinata frequenza, tutto lì, senza rischiare il trasmettitore. Poi che ci siano differenze di segnale, questo è ovvio, lo sappiamo benissimo, se un'antenna è di 7 metri e poi io l'accordo l'impedenza per i 2 metri, è chiaro che c'è la differenza di segnale, questo è ovvio, però non rischio il trasmettitore, ho detto, non rischio i finali. Ecco, perché il compito dell'accordatore antenna è quello di adattare appunto l'impedenza a una qualsiasi frequenza, capito? Ecco cosa volevo dire io. Poi volevo fare una domanda a Pomponio. Lui tanto tempo fa possedeva un VHF marino, io me lo ricordo come se fosse oggi, lui trasmetteva con l'antenna della 27 e con il trasmettitore marino senza nessun accordatore, però ricordi questo, Pomponio? Perché risuona, ci sono sempre multipli e sottomultipli della frequenza 27, dici. Comunque io sto scendendo sicuramente dal letto, se vuoi sapere. Mi ascolti, sì? Sì che ti ascolto, più basso ma ti ascolto, certo. Risuona, è multipli e sottomultipli, dei 2 metri non possono essere né multipli né sottomultipli, né onda intera, né mezz'onda, né 5 ottave, niente, nemmeno 3 quarti d'onda, di una lunghezza d'onda di 11 metri. Non possono assolutamente esserci, sono differenti. Però trasmettevi tu con l'antenna del baracchino, trasmettevi anche in VHF marino in 2 metri, questo tanto tempo fa, perché quando io ce l'avevo il VHF marino, ricordo che trasmettevamo insieme, tu trasmettevi con quell'antenna e io ho quell'antenna dei 2 metri, capito? Un po'. Certo, perché risuona, il discorso è quello, ci sono multipli e sottomultipli, se no niente da fare, risuona eccellente con l'antenna. Questo sì, non la lettera del letto, non lo sapete, c'è un dipolo, la cacciata la lettera del letto, 2,74 per braccio, e c'è uno e 1,79, mi senti bene, sì? Sì che ti sento, sì, ti sento, il segnale si è abbassato, ma ti sento. Ok, cioè, va bene, sono contento per questo. Va bene, comunque, se lui sta uscendo come stava dicendo, allora lui non ha capito proprio niente quello che stavo dicendo io. Allora, dall'apparecchio al rosmetto è stazionale sopra zero e anche l'accordatore, però dall'accordatore in poi le strade ci sono, e lui non ha capito quello, il discorso che stavo dicendo io. Ci sono per logica quella lì, più per guardare, aspetta, ti dico, lo metto nel mezzo, per dire, esci lo stesso, però dopo il rosmetto, dopo la colazione, la stazione del CDI, e rischio di bruciare i finali, perché i finali surriscaldano, lo sai anche tu, è come avere un tubo da un pollice e mezzo di acqua, lo restringi da mezzo pollice, è logico cazzo che il finale scalda, perché non c'hai, non ce la fa a emettere, per dire, 4 watt, 10 watt, 15 watt, quello che vuoi anche tu, questo dicendomi. E ricordo, l'accordatore è fatto per quello, per accordare, se non esci come lo guardi, il discorso è quello, se l'accordo sì, però esci come lo guardi. Si chiama rendimento quello. Esatto, rendimento, ma siccome non l'ho avuto capire, neanche come lo guardi, perché adesso mi sono presentato di prova di elettronica, il discorso è quello, non lo voglio ancora capire la gente, perché non è che si sono presentato di prova di tecnico io. Così per fantasia, forse è quello lì, purtroppo è così, puoi guardare quello che vuoi, però dopo che c'è l'accordatore, se ci sono, e te li tieni, se non c'è qualcosa, rischi di bruciare tutto, perché ti ritornano, l'onda riflessa ti ritorna indietro, luci tutto, il discorso è quello, è come avere un'antenna già accordata, che te la tieni a un euro stazionario, cosa me ne frega, intanto funziona. Intanto oggi domanda fa male il finale di scaldo si brucia alla fine, per quello ti piace, per dire, ma trovate un conto, ma è un conto avere 100 watt, se 100 watt non ce la fai a contare nulla, perché ti ritrova tutti quanti indietro, il discorso è quello, non fa attaccare nulla. Ma io sono mezz'ora che sto parlando di quello, ho detto più volte che il rendimento non è quello, non ti ho detto la parola specifica al rendimento, ti ho detto semplicemente che il segnale si abbassava e mi sembra che è la stessa cosa, no? Sono mezz'ora che sto parlando di la stessa cosa, adesso mi sembra che ci siamo, adesso siamo in sintonia tutti e due, dai, è così, bravo, dai, lasciamo perdere, no, non è un problema comunque, ci mancherebbe, avanti Pierpa. Ciao ragazzi, stiamo bene, stiamo bene, tutto va bene. Ok, Roberto, come le ascolti adesso lì? Tornato ormai caso? Sì, l'avevo ascoltato prima per fare niente da dire, non cambiava niente, la radio fortale ascoltarsi troppo forte, come al solito, per abbassare il volume con te. No, però differenza di resa c'è sicuramente, perché come avevo detto prima sono adattate per diverse frequenze, anche una lavora su una frequenza, una su una, ed è normale che ci abbia una resa diversa. L'unico dubbio che ho detto, che mi sta volendo la vita, ho detto come mai non ascoltava Antonello, che è abbastanza vicino a me, anche se c'è un'antenna di, come dice lui, di macchina, di filo elettrico, però considerato che anche il capo non è che ci abbia una grossa antenna, lui l'ascolta abbastanza con lui, proprio deve essere completamente negativo per quella posizione lì, non lo so. Ho capito anche a me l'altro giorno con Gianni che lui in certi momenti l'ascoltava, per un pelone anche l'ascoltava, che era giù quello di San Rocco, era molto più vicino, io l'ascoltavo per dire. No, ma no, beh, ma io non ho detto che c'è la stessa resa, io ho detto che riesco a uscire, lui continua a insistere che c'è una stazionaria, a lungo andare si guasta, io ho il numero, ma il problema è segnato, anzi meglio della 27 pure, a 1-1, se non c'è una stazionaria, allora parecchio non ne fa niente, comunque lui continua a dire che a lungo andare tre stazionari ci sono, allora poi corro anch'io, se c'è un numero che mi segna 1-1 mi fido, se muovo il tunnel me ne faccio pure, addirittura riesco a sollevarmene pure e ad annientarmene pure le stazionarie e riesco a passare al vero, che però non senti segnale perché ti toglie tutto. Comunque io l'ho tarata su 1-1 di stazionarie, l'antenna stava risuonando, logico, non ho detto che risuona come la 27 quella assolutamente, perché addirittura se vogliamo dirlo tutto ti toglie anche l'infatti abbastanza abbondantemente. Infatti da 3 watt sono dovuto passare a 10 watt e quello ricco, sono dato, ho dato più watt del barattino, sono dato 10 watt per farmi sentire, ma è una questione logica quella, che ti toglie innanzitutto watt e la resa non è la stessa, però se dai watt la resa già va lo stesso. Comunque conosco se lui ha sempre visto stazionarie, da dopo non ho capito, prima ha detto da prendere il trasmettitore allo strumento, se non ce la capri, se no lo facciamo in disparte, poi ci rifacciamo riprendere la franchetta. Avanti, capri. Più tardi, dai. Non puoi, metti l'antenna. antenna tua, l'altra antenna è quella che hai tu. E vediamo un po', io ti sento benissimo che qua, perché ti ho sentito altre volte. E così Antonello potrà anche vedere che con un'altra antenna che è completamente differente, che ha due, tra l'altro ha due funzioni, trasmissione e ricezione, e riesce a uscire ugualmente bene. Vai Robert, se ci sei. Ecco. Se facciamo quando andare avanti il bello, vai. Sì, buonasera a tutti. L'anima lunga in direzione Florinas, a San Marco, che ho passato la stazione Marchia. Va bene, ascoltiamo. Come se ti ascolto, forte e chiaro qua. Ma non si dovrebbe più lontano, avanti giù. Ok. Ti ho chiamato poco fa, si vede che ancora non eri pronto, stavi installando l'apparecchio in macchina, vabbè dai, vediamo un po' di accompagnarti fin dove è possibile, anzi sicuramente Roberto riesce ad accompagnarti fino al posto di lavoro, e ti apre anche la porta e così tu entri nel locale. Il campo, dai, ora vediamo fin dove riesco a farmi sentire, diciamo. Va bene, d'accordo, eventualmente attacca la scarpetta se ce l'hai, ti attacca così, perché un po' più là magari sarà un po' difficile, oggi è una giornata un po' così, magari qualche goccia di acqua e ci impedisce di ascoltarti se vai molto lontano, cioè da quelle parti. Comunque sono sicuro che se attacchi ti sentiamo ugualmente, avanti. Va bene, avanti Andrea. Sì, io voglio che l'ascolto io a lui, fino ad arrivare a Florida. Anzi, lui sente a me, il discorso è quello. Perché sono positivo per quella zona io. Pensate di niente da fare, ma per quella zona tu è strano. Arrivo forte. Capo! Aspetta che sposto la colonnina. Sì, ascolta la colonnina, ascoltala. Hola. Dove sei arrivato? Dove sei, Andrea Salvi? No, qua alle porte di Sassari sono, dai. Uscendo da via del Porto Torres, ora prendiamo la 131, campa. Ho capito, dai. D'accordo, dai. Vediamo un po' dove riusciamo ad accompagnarti. Avanti, Pepa. Ehi, a papà, mi sono riprendendo un attimino io, che mi allontano un minuto. Siamo a smontare il bottone. Smonta, smonta. Ok, d'accordo, Pepa. Siamo qua, bussa alla grande, dopo non ci sono problemi. Va bene. Falchetto, se n'è andato, si vede che era stanco, forse si può fare un riposino. Avanti, Robè, accompagnalo sino all'uscio di casa, della pizzeria, a Savio. Anche perché pizzeria fuori da zona aperta. Ristorante pizzeria Caldina, stasera musica dal vivo, karaoke, divertimento, cambio. Ma se avete parlato in due, non ho capito, giù cosa hai detto? Ho detto che lavora, sì, nella pizzeria del fratello, lì a Florinas. E dunque, lui ha detto che c'è anche karaoke, divertimento, eccetera, eccetera. Avanti. Quindi è una pizzeria a tavolino, non è di quella dell'asporto. Sì, tipo, tutte e due facciamo, anche cati concorsi, quello che vuoi, su prenotazione, facciamo di tutto anche di più, capa. E magari un giorno ci passa a vedere, se sono fuori legno o elettrico. Rigorosamente a legno d'olivo, cambio. Allora bisogna andarci, dai, proviamo anche lì, dai. Ok, comunque sarebbe arrivato benissimo qua. Scusa, dalla parte di giù, sì, non sei così vicino, per dire, quando arriverai qua davanti. Sei 9 più 20. Positivo, dai. Qua in IM ci abbiamo sempre l'aiutino parcheggiato, capito? La casa siamo lì, sì, casa lì. 5 volte l'antenna, non di più, non sa mai che risolviamo. Ma da casa, la IM, un aiutino, ci sto pensando agli piedi, ce l'ho, dai. Avanti giù. Ok, Savi, d'accordo. Infatti è per quello che ti ho detto, eventualmente dopo più là, se non ti sentiamo, attacca la stoffettina così almeno ti scaldi i piedi come hai detto tu. Però io volevo chiamare a Gianni, se Gianni poc'anzi era in trasferta verso Ugilo, vediamo un po' se sta rientrando, se ci senti ancora. Gianni, ci sei? O quelli si sono fermati in qualche locale a bere qualcosina col freddo che fa. Vabbè, pazienza, dai. Antonio. Dimmi. Giulio. Ehi, dimmi. Guarda, da qua tu dovresti ascoltarmi quasi 9:20 qua, perciò va benissimo. Dai, abbiamo preso la 131, siamo di fronte alla Ocean. Ci dirigiamo a media velocità di crociera verso Florida, se siamo in ritardo, dai, ore 18, se no qua mio fratello mi prende a voce. Ciao. Ti prende a voce e ci sono cane ossa, di la verità. Sto scherzando, stavo dicendo, perché siamo, volevo dire, perché in compagnia sì. No, no, negativo, siamo io e la mia BM, capito? Quindi siamo in due. Io faccio compagnia a lei e lei fa compagnia a me, sale la Florina, scappa. Ok, ho capito, Savi, va bene, dai. Tu già mi senti bene ancora, sì? Guarda, segnali non me ne posso dare perché il barattino non l'ho piazzato sotto, l'ho appoggiato, capito? L'ho appoggiato qua a fianco, quindi i segnali non li vedo, però la radio è ottima, Giulio, effetto presenza qua, non ci sono problemi. Avanti per te, Roberto Quadrato, che adesso qua ti devo arrivare una schioppettata, Auguri, 6925, quasi 9:30. E lì cosa vuoi fare tu, tipo cameriere, pizzaiolo o canti, cosa vuoi tu? Allora, io faccio piatti composti, sono in cucina, però quando non ho niente da fare in cucina, mio fratello mi sta insegnando come fare le pizze, capito? Per il momento gli rispondiamo, piano piano adesso incominciamo a infornare. Andava bene, va bene tutto, va. Quello, l'esperienza è un po' di tutto, non sbaglio. Vabbè, bisogna fare quello che c'è, capito? Di aria non si campa, l'importante è che ci siano gli spiccioli, poi, tanto oggigiorno si parla solo di spiccioli, così non ce ne sono. È giusto così, dai. Poi abbiamo buttato in strada, arrivare ai videogiochi o videopoker, cosa sia. Sì, dico, dai, si conferma. No, il videopoker da me verrà poco, perché io ci ho promesso se no, da quando esistono 3-5 euro, non di più, quindi... Stavo a prendere 98 persone video poker. E beh, i cavati, sai io, ripulcati. Arrivano, so, qua a me, incrocio, via di, cos'è questo, via d'Italia. Dai, stiamo superando direzione gallerie, capa. Sei già nel punto delle gallerie? No, le gallerie ci dobbiamo arrivare, dai. Abbiamo superato l'incrocio di via d'Italia, qua in discesina, dai. Ma nel racconto lì mi dovresti arrivare al pallone, perché di lì sono perfettamente aperto per te. Ma qua sì, una bomboletta, una bomboletta, non ci sono problemi. Scende dove c'è il ponte, sono, la lì, guarda, sto passando sopra il ponte, prima delle gallerie. Guarda un po', Roberto il mio quadrato, come ascolti l'anima lunga, cambio. L'ultimo pezzettino è di 9:50, hai superato la cosa, Antonello, perché lui arriva a 9:40. Positivo, dai, avanti buon pugno! Non ascolti la salve, forse si è allontanato, dai, la tua parola è ancora meglio di me. Sì, stavo entrando in galleria, entro in bocca un attimo! Ti ho ascoltato sino a quel toppetto, no, per lì. Va bene, salve, d'accordo. Dimmi se mi senti anche in bocca o fino a che punto mi senti, così almeno ce ne facciamo un'idea. Antonello si era sicuramente allontanato, evidentemente, se non ha risposto. Vediamo, ma siamo rimasti noi due solamente, siamo rimasti, Robert, perché Pier Paolo è andato un attimino a fare delle cose e rientrerà senz'altro comunque. Ti è rientrato avanti, Pierpa. Pappa, era troppo, era bravo a ruotare, boh. Ho ruotato tutto a posto, altre 2 ore ce la faccio, Ma che niente, Pierpa, tutto c'è. Tutto, non ho buttato via niente. Tu direi, può essere sempre utile, a parte gli scherzi. Facendo, qui diciamo, Pierpaolo, Giulio e io, non c'è nessuno, adesso facciamo una chiamata generale sul 21, attenzione, canale 21, chi vuole entrare, avanti, poi buonasera. Timo, direi, riprendi, tra l'altro Giulio. Ok, vabbè, d'accordo, Savinio, ascoltami se mi stai ascoltando, e se non suonate le orecchie, cosa vuoi che ti dica? Ma non credo, adesso sei in buca, non credo che mi sente. Va bene così. Stavo dicendo, Roberto, l'antenna ormai è la mia, quella nuova, tutti i radiali me ne stanno cadendo, quasi tutti i giorni ne trovo uno sul tetto, perché sono marci e ne cadono così adesso, ogni pochi giorni ne trovo uno, perciò adesso appena che migliora il tempo la cambio e non se ne parla più. Bene, bene, bene, ne metterò la turbo. E così andiamo ancora avanti per un altro bel po' di tempo, qualche anno ancora. Tutto lì. Ok, avanti via qua. Allora, me la metto anch'io un'antenna buona, ma sto valutando una cosa e poi forse me la metto anch'io. Sarebbe l'ideale, Pierpa, sarebbe l'ideale. Fai di tutto lì per poterla mettere sul tetto alla grande, che ne hai diritto, ne hai, no? Ma cosa c'era quella, ce l'aveva, c'è ancora con l'antenna, mi sembra, e non la sta più usando. Oh, è meglio che non entri adesso, è meglio che non entri, perché intanto era solo un rompiglione, era quello lì. Ma siccome ognuno di noi ha diritto all'installazione di un'antenna e tu dovresti fare di tutto per poterci riuscire a installarla lì in quel tetto, così almeno hai finito con le antennine e cose varie, usciresti proprio veramente alla grande, perché quella è una zona straordinaria, perché arriva dappertutto da lì, già esci bene con l'antennino, figuriamoci poi con l'antennone sul tetto come saresti uscito, proprio a mille una notte, ragazza. Vabbè, va, patenzia, avanti Roberto. E adesso vediamo se Saverio ci ascolta, se ne è uscito dal buco. Attenzione Saverio, se colpi la città di Sassari, avanti. Sono in Russia del Muro, scala mia, nella speranza che ascoltate ancora la Riva Lunga. Pure 5 del tuo rapporto. 5-9, come vuoi tu. 5 radio e 9 segnali. Positivo, Giulio Dollaro, ascolti ancora l'antenna della Riva Lunga. Certo che ti ascolto ancora. Segnale basso ma ti ascolto. Non so se hai attaccato la soffitta, comunque attacca, che così sa anche meglio. Ma ti ascolto comunque, sì, a questo momento sono riuscito ad ascoltarti. Avanti e pietà. Ma te l'ascolto anch'io, è basso ma l'ascolto. Quest'ultimo passaggio era Santiago 3, una radio 2, dai. Ok. Avanti, vabbè. Vediamo se Saverio ha attaccato o se sta andando liscio. Avanti Saverio, come sei liscio o gasato? No, quando sono partito dal Monte Rosello mi ricordo di aver schiacciato il bottone, l'ha vinto. Poi non lo so se sotto il sedile si può essere anche spento, ma penso di no. Penso che sia azionato qua, dai. Parallelo alla 131, la strada, la scuola che bisogna fare ora per salire a Florinas. Adesso non prende per Florinas Cave. Ti ascolto, non ci sono problemi, almeno fino a questo momento riesco ancora a ascoltarti. Bene, bene, bene, adesso comincia a salire, suppongo, e sarà ancora meglio, almeno credo, e non lo so. Avanti, Pepa. Vediamo, vediamo se ascolta a me, Salveglio. Salveglio, mi ascolti a me. Funzionava, abbiamo avuto problemi, naturalmente è tutto rapportato alla grande stanza, la prima navira, comunque già va bene anche tu. Stavo preoccupato, detto, magari noi lo sentiamo, però lui non riesce a sentire, a me ci ha risposto, per cui ci ha anche ascoltato, perché è lui per avere potenza e poi non riesce a ricevere. Però ho visto appunto anche in ricezione e ci ascoltava. Riesce ad arrivare meglio, capita anche a me molte volte, dico ma è possibile, se attaccato non lo sento, e altre volte magari senti a 30 km di distanza. Infatti no, su quello che non si va a verificare, dipende anche dal movimento dove apertura normale, e che stasera poi più presto, quando io lo stavo volando era un ascolto, non so se si ricorda Giulio, c'è stato una persona, non faccio nome, ha detto che l'antenna a Mantova serve per andare come gli ex, riesce a fare gli ex, altrimenti non riesce come su un'altra antenna. Ma si dà il caso che comunque l'estate scorsa, con un roccio di coco, numero 20 nella corsa di Ioni, che qualcuno che aveva la Mantova 9 comunque, se non deve essere dimenticato. E lo sai così, ho più parti, alle volte si dicono le cose perché magari non hanno avuto esperienza in merito, però quando c'è una propagazione può essere anche un bastone di scoppa, appunto come stai dicendo, che a voglia se si arriva, altro che questo è scontato, perché la propagazione ha una diciamo un potere straordinario, alle volte con un antennino riesci a oltrepassare oltre oceano, mentre invece magari con un'antenna grande non ci si riesce, dipende naturalmente sia dalla posizione e dal tipo di propagazione, che è normalissimo. Io mi ricordo, sono anche arrivato in Brasile, ti puoi immaginare, anzi addirittura laggiù, una cartolina dall'Australia, non so se mi spiego, non l'ho più sentita, però c'era la cartolina dell'Australia, ti puoi immaginare, questa già da tanti anni fa, e quando allora avevo appena una misera Grand Prix, io parlo negli anni 70, una cosa così, 73, 74, una cosa del genere, ti puoi immaginare, perciò non c'è nessuna meraviglia che con un antennino si possa arrivare dall'altra parte della terra, quando c'è la propagazione, chiaramente. E va bene, avanti Robè. Sì, sicuramente non c'entra niente, non è tanto la potenza, quando c'è propagazione l'onda si riflette, tu magari prendi quella riflessione e puoi sparare dove ti piace. Dove il massimo che sono arrivato io sono proprio in Brasile, proprio chiaro piano, arrivato benissimo, e anche al mare lo stesso, ho fatto dei collegamenti non così lunghi di estate, da qua parlo, il massimo che sono arrivato in Brasile, poi Portogallo, Olanda, Belgio, quelli li ho fatti tutti in Europa. Questo che parlava anche bene italiano, però c'era una direttiva, e mi ha detto c'è una direttiva puntata verso l'Europa. Ha detto lui stesso che stava arrivando a 9.10, lui arrivava a 9.20, però non so quanti watt ci aveva lui in antenna. Diciamo, quando c'è propagazione non conta tanto la potenza, perché se no sarebbe troppo facile avere kilowatt e andessi da tutte le parti, ma almeno su queste potenze, su queste frequenze qua la potenza non è indispensabile, conta l'antenna, l'antenna e poi la riflessione. E aspetta un attimino, Pier Paolo di nuovo, avanti. Papa, ma l'esperienza mi ha detto che nella, diciamo così, in propagazione l'antenna conta poco, c'è poco a che vedere con l'onda, in propagazione è tutto un discorso diverso, riesce ad arrivare in posti dove per esempio tu immaginati che non riusciremo ad arrivare a Macomere, e però in propagazione arrivare, quindi il discorso dell'antenna sulla propagazione è qualcuno che non ha capito che è dell'antenna grande. Un radio. E in propagazione ti dico una cosa, anche se c'era un dipolo normalissimo, senza battere niente, in propagazione cambia tutto. No, il discorso dell'antenna, della lunghezza, di quanto riceve, di quanto non riceve, poco conta. È soltanto qualcuno che lo sento sempre dire questa cosa, non ha ancora capito. C'è qualcuno sotto di te, avanti che vuoi entrare. Quando stai parlando c'era una porta anche sotto, avanti chi è? Deve essere una Giulia. Ripeteci, comunque Giulio, se lui da persona che ho sentito che ha parlato con l'Australia, non ne ho mai sentito il primo e unico forse. Sì, no, ce ne sono tanti, ce n'erano perlomeno allora a quei tempi, ce n'erano tanti, a voi se ci arrivavano e come. Solo che oggi diciamo che l'etere è stato di segnali anche, e rimane un po' più difficile non solamente arrivare così lontano, ma anche in posti molto più vicini. Alle volte si trova difficoltà, si trova, perché oggi con tutte le radio che ci sono, tutte le TV private, tutte queste cose, tutti i segnali di qualunque genere, anche a livello di giocattolo in aria, sono segnali che non fanno altro che anche quelli diciamo così intromettersi e dare fastidio ad altri segnali magari, no? Tipo la 27 eccetera. Prima era così, ma io mi ricordo c'era Marino Ronzino con un antennino, con una boomerang normalissima, proprio di quelle corte da un metro e venti sarà stata una cosa così, che parlava con tutta l'Europa, parlava dal Monte Rosello, esattamente da via Flumeraggia, da quella zona, tra l'altro in una casa molto bassa, ma bassa veramente, casa terrena addirittura, e lui con questo antennino riusciva a parlare in tutta l'Europa. Alle volte noi con l'antenna più grande, migliore, non riuscivamo a collegare, e lui riusciva, e alle volte la frequenza è strana, vabbè, capito? La roba poi, una volta che prende la riflessione, puoi fare chilometri, ma riflette sul cielo, poi dal cielo riflette sulla montagna e si moltiplica la distanza, e così non dipende sicuramente dalla potenza, come detto, come si chiama, per però neanche dall'antenna, è solo questione di fortuna che riesce a riflettere con uno specchio che prende l'onda, si può moltiplicare all'infinito. Sì, infatti è così, ma io mi ricordo sempre in quegli anni lì c'era un certo amico di Usilo, un certo Ivan di Usilo, era un mio coetaneo stesso, la stessa età eccetera, e anche lui era in frequenza, era un rappresentante di mobili questo signore qua, e noi tutte le sere immancabilmente sia io che lui riuscivamo a parlare sempre, ma sempre con questa ragazza dell'isola d'Elba, tutti i santissimi giorni, anche se pioveva, anche se era tempo brutto, inverno eccetera, noi riuscivamo a parlarci tranquillamente, cosa che non ci riusciva nessuno da Sassari, ci riuscivo io e lui. Non so per quale motivo ci riuscivo, tanto più avevo io una Grand Prix da un quarto d'onda sulla ringhiera del primo piano, allora, perché abitavo nell'altra casa. Ti dirò anche di più, quando ancora qui a Sassari non c'era il Rai 3, in Sardegna non c'era il Rai 3, io, avendo l'antenna della televisione attaccata alla ringhiera, giravo il palo, perché avevo tutti i segni fatti, e riuscivo a vedere Tele Monte Carlo, riuscivo a vedere, e poi riuscivo a vedere sempre Rai 3 Toscana, quando ancora in Sardegna non c'era Rai 3, capito Robe? Queste sono le traverse delle onde radio e onde TV in genere, capito? Sì, dipende, ma dipende il canale. Anche un amico mio che abitava lì vicino a Monte Rosello, che già lo conosci pure tu, il cognome di quella persona che c'è vicino a te, non di cui, però di quella famiglia lì, lo stesso loro prendevano, quando c'erano l'albume delle televisioni private, dice, prendevano questa televisione dalla Toscana, tutto l'anno la prendevano. Io in tutti i modi ho provato a girare l'antenna, ma lui dentro città, in un fosso, perché lì sei a Monte Rosello 4, sei in un fosso, sei tutto chiuso, e lui riusciva a prendere tutto l'anno la televisione, e così prendeva anche la televisione di Alghero, quella televisione al corallo, mi pare, o qualcosa del genere, lui la prendeva tutto l'anno. Sì, vabbè, è così. E ti dirò di più, io qui a casa adesso non c'è più il segnale analogico, no? Qui ormai in Sardegna siamo al digitale. Beh, io riesco a ricevere dalla Corsica un canale corsicano francese esattamente sul primo canale dell'analogico. Io alle volte lo metto, non è proprio chiaro, e tantomeno lo capisco perché parlo in francese. Perciò è un canale che arriva direttamente dalla Francia, cioè dalla Corsica, capito? Vabbè. Proprio adesso, in questo momento, in qualsiasi momento del giorno, 24 ore su 24, vedo questo canale qua. Vabbè, probabilmente c'hai dei passaggi, vabbè, la Corsica ce l'hai di fronte e tu non hai nessun ostacolo, probabilmente anche per quello. Vediamo un pochettino, prima facciamo un attimo il bianco, vediamo se c'è qualcuno sul 21 che vuole entrare, se no rifacciamo riprendere la Pierpaolo e poi Antonello. no. Attenzione, canale 21 che vuole entrare. Vai avanti per qua. Anche con la macchina riuscivo a collegare Antonio Felice, praticamente si chiamava Antonio, aspetta, Hotel Sole Monti, Antonio, aspetta che il nominativo non me lo ricordo più, lo sai, non me lo ricordo più il nominativo, comunque mi aveva anche invitato, dice vieni, dice, a trovarmi, e io, dice, sono il gestore di questo hotel, c'è tutto, c'è il ristorante, c'è tutto, vieni anche con la famiglia, sarai ospite mio, e invece non ci sono mai andato. Poi si era trasferito da Cuenza, si era trasferito a Calvi, e ci parlavo lo stesso, anche a Calvi, in un altro ristorante. E per dire, no, la esperienza alle volte della radiofrequenza è così, o oggi magari non ci arrivo più in così, che chi lo sa, boh, non l'ho più sentito, dunque non saprei nemmeno, capito? Che fa? Sì, ma io non lo sento per niente, io Santiago il vero, cioè a me, non so se c'ha niente, a lui mi ha detto che c'ha niente, ma sta continuando perché. Sì, ma se l'hai sentito, era lui quella portante. Era lui, non ti preoccupare, già c'è, è qua, è vivo. Ah no, Peppa, non può essere lui perché era oltre 9. Tu l'altra volta mi hai detto che era lui, ma era arrivato a Santiago 2 e 3 a me. Era il senso, ma le parole tue l'ha messa. Io quando stavo parlando Giulio ho sentito un colpettino importante, ma non era sicuramente quello, perché un segnale oltre 9, per copiare Giulio devi dargli almeno 9,25. Per cui non puoi mica, forse adesso ce l'ha per fare. Adesso ce l'ha, sì, adesso, quanto ti arrivava? Santiago 3-4, ma neanche si intende, proprio in mezzo al QRM. Qui c'è un'ingegneria. A me non mi fa niente, mezzo al QRM, e ho sentito una specie di fruscio, ho visto salire lo Smith, ma non so cosa abbia detto. No, non dice niente, ho detto la portata e fa ascoltare la televisione. Ho sentito proprio una cosettina, ma un attimo deve essere ammesso. Niente qua, proprio niente, zero. Ti arriva a te Giulio, beh, te lo sai che non ti arriva. Infatti qua non è mai arrivato, se quella bestia lì non è mai arrivato, non arriverà mai qua. Ma, che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, Pierpa? Vabbè, lasciamolo bollire nel suo brodo, che è meglio. Certo, è vero, ma se insiste, stasera chiudo tutto. Non parlare, Pierpa, non la sua portante. Bravo, bravo, vai ancora, vai. Pierpa, parla, cioè, manda la portante senza parlare. Ma con un bel rubo a capitanti, perché vicino a casa sua, quindi disturba il volume. ma è di perché hai il culo. Ho visto anche la partita, vabbè, continuate, io vi sto ascoltando volentieri. Ciao a tutti, buona giornata. Ok, ciao qua. Ci sentiamo, va bene. Va bene, dai. Pierpaolo, mi senti, no? Quando c'è la portata non mi senti per niente? No, separate in due, avanti a tu. Quando c'è la portante venite a mettere, è attaccato, è a 5 metri da lui, capito? Oh, Roberto, è quello che riesce a coprirci. Ma vai da un po' buio di graziato, ma non è possibile. È una cosa incredibile. Quando apprende, storta la Tulia, non è che si arrende così, no? Pregatevene, buonasera, Logano. Roberto e Antonio, va. Gli altri non li ho sentiti, comunque buonasera a tutti. Ciao Mario, salutoni, ben entrato. Grazie, staccate nella corrente. Ciao Mario. Ciao Mario. Ti stava cercando Salvatore a te. Lo so, mi stava aspettando Salvatore, però ci passo domani mattina perché purtroppo troppo da fare ed ero sempre fuori e non ce l'ho fatta passare là. Sì, va bene, se te poi non c'è neanche il numero di telefono tuo per trovarti. Ok, riepiloghiamo allora, Giulio, avanti. Ok, adesso lo sento anch'io quel fischietto sotto della portante, ma è Santiago Zero, però maledizione, il suono arriva qua, eh. È un po' più forte 5 di Santiago, ma è inesistente, cioè siamo a livello di quel re. Purtroppo se ce l'ha così vicino, io sarei andato giù che l'abbia attaccato la luce, non mi credi? Sì, ma più di nome a me, vabbè, quindi immaginati cosa arriva loro. Figurati, ma io l'avevo attaccato la corrente, non mi sarei arrabbiato, e lui dimostrami che me l'ho attaccata io la corrente. Ciao Roberto, anche a te. Ciao a tutti comunque, dai, tutti quelli che siete qua. Gaba. Ciao Luca, ben entrato. Ciao Maria. Ciao Giulio, ho entrato, mi ha fatto l'esposto, sono fatto l'esposto, un casino. Una volta di fatto l'esposto, allora lì un po' più. Mi siete là sotto, cicchia, sotto. Giù, non te lo vede nessuno, puoi fare quello che vuoi, non è tua frequenza. Ma non puoi, tu si può comportare male nella frequenza, capito Roberto? Tu puoi seguire a me e disturbarmi, perché io lo sto pagando, lui sicuramente non sa neanche pagando, perciò posso fare qualcosa. Ah, se lui non c'ha la concessione, quello è un altro discorso, però tu puoi fare quello che vuoi la frequenza, puoi schiacciare, fare, dice io sto facendo delle prove, e lui cosa, tu cosa gli dici? Eh sì, tutti i canali, quella cosa Roberto, dai Roberto, non è così. Dobbiamo fare un esposto, organizziamo la bella firma, poi vediamo un po' cosa ne esce. Qualcosa li faranno sicuramente, perché lui sta prendendo la gioco, ma non è così come pensa lui. Non si fanno queste cose. Poi non è come stai dicendo tu, Robert. Capisco magari sui 20 fare proprio che. Ma io mi sposta sul 21, ci mette qua sul 21, mi sposta sul 30, mi mette qua sul 30, no? Allora questa qua è una cosa. È fatta apposta, ecco. Perciò non è una prova, ma bensì ti sta disturbando. Io se avrei staccato la segnalata, per contatto la segnalata, tanto lo sai, non abitano vicino, avrei staccato la corretta, non mi credi? E c'è un break, vabbè. Sì, avanti, non ho sentito. Come parla? E Giuseppe, che intanto puoi salutarsi. Ciao tu Claudio, buonasera, ben entrato, eh. Ti ho detto ciao Marie e tu non mi hai risposto. Buonasera, ti ho detto ciao Mario, sono in Corrix e sono entrato così solo per salutarti. Niente di particolare. Ciao Mario. Ciao Claudio, auguri, comunque, anche se in ritardo. L'altra sera ti ho sentito con quella che mi avevi regalato tu, stavi parlando con Franco, però non potevo entrare perché non c'ho l'alimentatore là, ti sentivo passo passo e niente, ma boh, riprende Roberto. Ma dove sei? In movimento sì. No, a casa sono, sto usando l'Argus, però ho problemi perché sto uscendo basso, forse c'è qualcosa nello spezzone che ho fatto che non è fatto bene, boh. Dei problemi perché fatti da 9, fatti da 7, 9, 10, ma proprio più abbassi, ma proprio avanti per abbassarmi su. Giuseppe, l'amico, quello del Sacro Cuore, Giuseppe, no? Avanti Giuseppe, se mi ascolti. Scusate, dai, mi devo lasciare, devo scendere giù. Mi hanno chiamato laggiù un attimo, vediamo un po', non so se posso risalire. Ci sentiamo, eventualmente vi saluto adesso e poi non so se posso risalire. Ciao Roberto, grazie per il consiglio, ciao Claudio, ciao Mario, Mansell, per Paolo, Antonio e poi chi c'era? Luca e mi sembra non c'era nessun altro. Antonio Pomponio c'era, se c'è ancora, non lo so. Saluto tutti, dai, io devo scendere giù alla tavernetta perché mi hanno chiamato da giù. A presto, ci sentiamo. Riprendi pure Roberto. Sì, va benissimo, io non c'è problema. Quando vuoi, già c'è sempre. Me la accetto, dai. Grazie del QSO. No, c'è Giuseppe, il piccolino che sta parlando. Avanti Giuseppe, non ho capito se sei in movimento, però dove? Il segnale, per cui ti sta anche un po' dando del fastidio. Ho capito che sei macchina, però sei molto basso per essere macchina, veramente l'antenna faccia la magnetica. Tu sei entrato Roberto. Sì, ciao Antonio. C'è anche Giuseppe, però è piccolino. L'altro giorno eri molto più forte Giuseppe. Vabbè, ti sta ascoltando, però ti sento accorto perché sta portante di questo simpaticone ti sta disturbando. Guarda, se puoi fare qualcosa magari per farti sentire un po' meglio, vediamo un pochettino. Allora, riepiloghiamo, c'è anche Mario, ti rilancia Mario, e Mario ti ascolta anche meglio. Avanti Mario. No, io lo ascolto passo passo e quando c'è il portantista me lo copre, mi arriva leggermente più forte di lui. Comunque non c'è problema. Ciao Luca. Niente, poc'anzi non ti ho salutato perché non ti avevo sentito. Capito Robè? Così che vediamo se adesso lui mi sente, perché ho capito che mi sentiva piccolino anche a me. Ciao, ti ascolto bene qua, non c'è problema. Tutto orologio qua. Sì, no, 9:10 qua da me. Ciao, la radio è un po' lazzina, comunque ti ascolto bene, non c'è problema. Mario, buonasera Mario. Buonasera, se non sbaglio tu sei per Paolo. Alchetto sono, buonasera Mario. Ah, no, perché c'è sempre la portantina che ogni tanto fischia e copre un po'. Ma non fa niente, già ci sentiamo ugualmente, là. A parole Mario, come mai così passa Mario? Mario. Hai visto il portantista, ha messo il segnale più forte, forse si è avvicinato alle mie coordinate. Niente. Sono basso perché non sto usando gli altri, mi si è crepato l'alimentatore. Ah, parola. Ah, già sta facendo bene lo stesso Mario, non c'è problema. Vivo su in biglia. E da quello non acciappi, vedi che c'è un altro guiccio. C'è la tossica, io faccio io, sono io, no? Ma e questo ci prende, non lo so. Ma allora. Non ti conosco. più bello a te. Ne ha da aumentare, ne ha. Quando superate allora possiamo dire che ti si è superato, ma adesso non ce la fa. Luca, a me mi supera. A te poco a poco ti disturba, ma che? Perché ora tu sei 9, poco più di 9, ma... Va bene, bene. Ok, aspettiamo che Roberto sta aspettando la chiamata di Antonello Pompone, là, e poi ce ne andiamo tutta 19 alfa, dai. No, ma non c'è necessità, perché tanto se trova la sua macchina, per la sua vettura, mica la macchina lo disturba. Allora aspettiamo qua, dai. Luca, ma tu lo conosci questo simpaticone? C'è qualcuno, lo so, qua è 7. Santiago 7, sicuramente va a parecchio vicino, ma ci sta portando in esca e fa il fischio. Non posso fare pure lui la mia parete. Aspetta, guarda. Posso fare anche io, adesso io lo sto facendo lui. Ma avete aperto a non bruciarsi lo stadio microfoni, come li facendo così? E là ci bruciamo un capo. Allora Santiago, ma tu lo conosci di persona, questo simpatico? Se come stai dicendo, sì. Ma io non so come te le mani addosso, sarei andato sotto casa e ci volevo staccato il contatto, le tanto sai dove abita, come si chiama, tac, devo accendere per attaccarsi la corrente, no? Beh, ovviamente il contatto ce l'ha giù o ce l'ha su. E c'è il contatto di Elena, ce l'avrebbe avere per forza pure da casa, lui ci avrà salvavita a casa sua, se ce l'ha pure. Il contatto di generale sono sempre nel condominio, sono normalmente all'ingresso. E era ben chivi, tic, è staccato il contatto, e la si arrabbiava. No, no, noi ce l'abbiamo dentro casa, non per ancora. Vabbè, cazzo, tu c'hai una casa, sono indipendenti, lui non abita in un condominio. Ah, vabbè, lui sì. Cappa. Comunque, si può anche fare così. Sì. Ecco, il contatto è poi vediamo un po' se sparisce la portante. Sì, avrei fatto così, guarda, non sono cattivo, però l'avrei fatto apposta, va bene, cazzo, sarebbe sceso lì poi, e vedi se scompare. Però la mia qua è di una distacchia di nuovo, a vedere se si fracca. Che non ti faccio mettere portata, mamma mia, cavolo. anche questo è sempre la stessa persona. C'era l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, mi chiedi di confermare gli altri, a Luca, a Claudio, c'era un altro che non siamo mai riusciti a capire chi era. Quello però c'aveva segnali molto furti. Ma ci seguiva da tutte le parti, con quello non potevamo sgarrare. E non sei mai saputo chi era? No, vabbè, che a me non è che mi dava più di tanto, perché tutti passavano, però quando c'è un segnale di 9.10, 9.20, vuol dire che c'è qualcosina, c'è un'antenna, non c'è un pezzo di filo come questo qua. Però giù poi scomparivamo tutti noi. Scusa, non ho capito. Fammi un controllo per cortesia. 9.35 qua. C'è un fischiettino però appresso, ma che antenna c'hai? La tubo 2-1? No, sempre un bastone c'ho. Controllati sempre il stazionale, che non c'è la tua, vabbè, l'accordatore non ce l'ha, sempre bene, dai, ogni tanto controllo. No, sto aspettando, e tra poco, se Dio vuole, la ce l'ho, dai. Zappa, vediamo un po' chi è rimasto qua, e Luca ci sei. Chi c'era? Claudio, avanti Claudio. Chi è rimasto? Attenzione, canale 21, chi vuole entrare, avanti. Ma poi vedi, giocare i vendi, mi fai necessità e non sei visto. Bene, io ce l'ho su tutti, sono a casa. Ah, c'è anche Fabio, scusa Fabio, non sono dimenticato. No, vabbè, eravamo qua al telefono, quindi non stavo provando a chiamarvi poco fa, ma c'era un discorso in alto, quindi... Che antenna hai usato? Sotto quel di poco, Fabio? No, sono Antonello. Ah, te l'hai fatto vicino, cioè il segnale di Antonello qua. Ma ti ha cattolato, ma ieri. Quindi non quanto mai, 9.90, 10. No, ieri abbiamo provato, c'è un video a collegare a togliere uno spettatore di capo della manta per mettermi uno nuovo, però faceva per nessun problema, come fa l'avvitare sparisce tutto. Vuol dire sparisce tutto? Cioè non c'è segnale? Bassissimo, non sente il QRM pochissimo, la cosa strana è che avvitandolo non ha stazionaria, però non sente niente. Svitandolo si sente qualcosa, però c'è la sensazione a palla. Ciao Fabrizio. Dimmi una cosa Fabio, ma la prima cosa che fai è verificare se il cavo è in corto, primo. Sì, ha guardato da giù. No, il cavo crudo, non parliamo di antenna, non lo puoi staccare sul cavo, i due centrali, ti misuri e poi metti il coso, se tutto a posto, prima cosa, se lo puoi fare, e poi verifichi il resto, puoi attaccare l'antenna e vedi se è corto l'antenna. E' presente che quel PL mi è capitato anche a me, stringendo troppo, si era spaccato. No, proprio senza, anche non stringendo piano. Sapete, mi stava dicendo che era il capo. E appunto controlli che non ci sia il cavo in corto, però prima di arrivare all'antenna fa la verifica, così ti elimini una cosa e poi prosegui, infatti molti di le due cime dell'antenna, con molto lungo il cavo. Esattamente. Vabbè, non può manucciare. E devi essere sicuro che le soldature le ha tutte fatte bene, controlli prima un capo e poi l'altro, fai così, però vedi sempre staccare l'antenna. Ieri abbiamo provato a citofonare la nostra coglione, tanto non ha risposto, non c'è nessuno, non riesco proprio a rintracciarlo. Purtroppo è così. E non hai altre possibilità di metterti una mini Gran Prix o una cosa del genere? No, perché comunque non ho... c'erano i trattini in muratura, quindi ho un casino. Dove bucare, mettere il palo, un paletto, no? C'è una ringhiera, uno stenditoio o qualcosa del genere? Li metti un paletto più di su? Niente, tutto muro. Ma comunque, scusa, dici tu ce la prendi con pugno? Staffa. Mezzo, sto scendendo, pensavo lo stavo aspettando, quindi è lì, e cosa sta facendo lui? Si sta affarrando, non penso di altro. Ma chi ha detto, non ci spostiamo che sta aspettando la pompugna, la gente ne deve essere a casa ancora. Ah, è per già. C'è problema, Lili, non c'è problema, se non è adesso sarà un altro giorno, non è problema. E vediamo un po', c'è Franchetto, avanti Franchetto. Salutami Fabrizio. Buonasera Falchetto. Buonasera anche a te. E allora, vieni a mettersi il pantalone a uscire che lo sta aspettando di Roberto. No, non ci stavo neanche pensando, ma hai detto lui, dopo qua se ti porto con la roba, mi ha detto, non è che sia indispensabile. Adesso usciamo, passo anch'io, là, così ci conosciamo. E vai, ti conosci un buon, ma vieni, stai scendendo, c'è il cassone partito. Vabbè, ma è più vicino lui da casa, cioè da qua è più vicino a casa mia o lui? Sta dicendo? No, aspetta, no, non tornando. No, perché la macchina ce l'ha a casa, sono venuto qua a piedi. Allora stai dicendo che sei più vicino tu, quindi diciamo che prima di andare a piedi. Tu sei, io sono più vicino a lui che tu a lui. Così dice. Come fai a essere più vicino? Tu sei tu che abiti vicino alla Campagna di Santa Maria? No, io su. Io... Dai, vicino agli accidenti. L'ultimo tratto di via una mappa. Io pensavo che tu abitassi qua dietro, l'altra volta pensavo vicino alla piazzetta di Carbonati, quella che c'è, che era la Carrofrice, si collega a Carbonati, lì pensavo che abitassi. No, ero in macchina l'altro giorno. Comunque, ma lì c'è la moneta comunque, anche quando c'è lui di Pola avevi furto, anche se attualmente il numero uno è coso qua, il più forte c'è l'Antonello. Io lo credo. Io devo dire, la lì che ci mette la mano con l'Antonello, io non parlo più con nessuno, se c'è lui in un altro canale. Aspettate, l'antenna che c'ho adesso, dall'angolino del terrazzino, l'ho messa più o meno dove c'è la mano, qua è sceso di segnale l'antenna della mano, spiegamelo tu, e sono 1,5 metri di distanza. Oh, qua c'è 9,40 e non scendi mai meno di quel segnale lì. Infatti, come dire, mai adesso certe volte sale un pochettino, diminuisce, tu sei sempre 9,40. Sì, da palchetto, ho messo l'antenna in alto, ho preso un pezzo di paletto che c'è anche di stato, lo sono fatto più su del tetto in pratica, e arrivavo più basso, allora ho preso e sono tornato per nuovo per la prima l'antenna, l'ho messa così infatti, l'ho lasciata lì, adesso quando sarà ci penso la moto poi ce la piglia in culo. Ciao Mario, ma che cos'è vasci, mamma mia! Non c'ho l'alimentatore, la massa che ti avevi scelto, ti ho detto vieni, vieni! E con questo qui non è che posso parlare molto perché, boh, non lo so se lo spessore va bene o meno. Va bene, ok, dai, quando vuoi me lo dici e niente, e vieni e me li guardi, sia quell'alimentatore che il resto. Mario! Mia, va bene, ma adesso ti sei sollevato di segnale. Va bene, ragazzi, già ti chiamo io e così ti sentiamo tutto, sono tu uccidi tutto da quando domani, là. Bianco per me, ti faccio Fabio, vabbè. Dire, Mario. Vabbè. Tu stai facendo random, certo c'hai i cambi di segnale fatti da 7 a 9, 9, 10, poi di colpo a 7. O c'è il cavo in corto o la carta che non è saldata bene. Fai random, Mario, troppa differenza di segnali c'hai tu. Addirittura Mario, ti sei voluto dire qualche problema, o all'apparato o al capo, per cui non riesci a se non bruci qualche cosa. Se puoi fare qualcosa, se no ti consiglio a spegnere tutto. Break. Aspetta, break. Allora di chi è? Qui Campanura, ascolta, un piacere, mi dovresti, per favore, come sono di segnale? Sì, non ho capito. Campanura. Ma qui mi dà un Santiago di 8 e una radio di 5, cambio. Positivo. Racconto mio, diciamo 7, radio 4, è un po' bassina, non è forte. Aspetta, chi è? Allora tu vivi? Ehi, fa 5 minuti per trovare la strada tua, non so, ti dico quella cosa. Sì, va bene. Capadue, scusa, ci siamo sentiti la prima volta, dove sei comunque? Piazza Sola. Ah, ma c'è un'antenna piccola, per essere interessato la mano un po' più forte potete arrivare. Che antenna c'hai? Una Tormo 27, però è su balcone. E vabbè, potete arrivare un po' meglio. Comunque ti tiro fuori, Santiago, diciamo intorno a 6-7, dipende da come dalle portante. E la radio 4. Vabbè, no. Stavo dicendo, può pure ancora lì sì? Dove sta uscendo? Aspetta, vediamo qui, c'è la Giuseppe, avanti Giuseppe. Sì, grazie Roberto. Dimmi come sto uscendo, fai la cortesia. Questa è la grande, 9.20, radio 5. Grazie Roberto, sicuramente era l'antenna sistemata male, ci ho mattugiato un pochino dietro, però adesso sto ricevendo bene anche voi, cambio. Sì, ma è la postazione fissa? No, sono sempre qui in stazione fissa, Roberto. Poco fa eri... io pensavo di macchina poco fa, addirittura, infatti ti ho chiesto proprio se c'erano problemi col coso, con la magnetica. Anche prima eri in postazione fissa? È positivo, Roberto. Allora, stai attento, cioè, se ci sono tutte queste differenze, poco fa eri stato 4-5 più o meno, però eri quasi una mezza quora, adesso sei perfetto, sai il segnale di Pierpaolo che è dalla Ferrocchia. Non è che quello quelle segnale che mi disturbava poco fa, Roberto. Sì, sì, aspetta, c'è anche Gianni, avanti Gianni, ti avevo chiamato per Mario Permuti e per Sottoterra già e non hai risposto. Se non c'ero, stavo al computer, se mi sta facendo una partita oggi, siamo belli. Buonasera a tutti, comunque, non so chi ci sia. Saluto a Giuseppe, a te Roberto, a Pomponio, vi ho sentito, poi non so chi ci sia di altro, non ho fatto ascolto, ho fatto l'errore, devo fare ascolto. Ciao Gianni. Ciao Giuseppe, Marchetto, ciao. Farchetto. Poi c'è anche K2 se non erro. K2 avanti. Buonasera Gianni, allora com'è? Santiago 9 Radio 5 qua. Già va bene, già va bene. E Antenna 1. Con la Lucerzio. Sicuramente. Uno mi sa che mi pare che sia ancora coccato mi Gianni. Lucerzio qualcuno. Va bene, dai, ci ha fatto un ridere ieri, dai, che punto. Positivo, ancora qualche giorno a letto si farà. Posso? Sì, buonasera. Vai. Sì, grazie, era giusto per salutare Falchetto. Scusami, ma è giusto perché l'ha ricordato Gianni, mi sono ricordato Falchetto. Ma con i dubbi è da quelle parti, cambio. Giuseppe, come mi compi quelle coordinate, cambio? Santiago 7, Radio 5, cambio. Kappa, grazie. Qua un Santiago 3, Radio 5, Grazie. Kappa, riprendete, fate girare la rotella. Certo, Roberto, guarda se era Fabrizio. Sì, adesso molto meglio, adesso sei tu. No, che cosa è quello di Vapala? Ho cambiato lo spezzone e l'ho messo sulla sedia per provarlo. Va meglio così, sì. Però c'è molto QSB, cioè il segnale è salito tantissimo, adesso c'è 9.15, però poi scende, si abbassa, non capisco per quale motivo. Aspetta, fanno qualcosa. Boh, non lo so. Allora dipende dal baracchino, non lo so. Non lo so neanche io. E stanno Gianni, doppio lungo. Ehi, ciao Mario, come sei tizio? Prova a venire avanti a vedere se da me va così. Non lo so già. Comunque, buonasera, doppio lungo. Come hai sentito? Kappa. Come è il segnale fisso, Mario? 9.25, fisso. Questi stanno abbassando, sarebbe abbassando, capito? Anche poco fa è sceso a 6 pure, non capisco per quale motivo. Non è questo passaggio, parlo prima. Gianni, ti stavamo chiamando, quando eri a Usi lo sto parlando. Ah, poi sono sceso, siamo fermati con ero con Giuseppe, ci siamo fermati e siamo andati a prenderci una cosa al bar. No, perché per me sei passato vicino a me e sei arrivato a 9.50. Ti volevo dire, ma dove non l'avete provato? No, ce n'era. Comunque siamo andati all'ufficio dell'acqua, da lì stava cominciando a nevicare e siamo passati. Allora ci pensavo di sì, anche state per presto, sei un pochettino alzata. Stamattina io, quando sono uscito qua da me, c'erano puntini proprio di nevisco, leggero, mi scatto acqua, mi scatta la neve, proprio poco. Ho detto, chissà usilo com'è, e non c'è niente. No, niente, rompe. 5 gradi c'era. Sale su. Ho guardato, c'erano 5 gradi, ma non è da cento. Siamo saliti lì al nido dell'acqua, sta cominciando, era pioggia, ma ghiacciata, tipo nevesciosa. Va bene. Sì, dimmi. non calcio in chievi, guarda, abbiamo dovuto aprire tutte e quattro i finestrini della macchina, cambio. Non dirlo a me, che stamattina ero con i bambini a Porcotorre, c'era un freddo, ma proprio freddo, quel freddo gelido, c'era un po' di maestralina, ma proprio gelido. Ci credo, Robby, la temperatura comunque è la sua, per il periodo che siamo. Sì, lo so, poi se salite in alto ancora a Bicio, di lì proprio prendi l'aria, c'è l'aria buona comunque, sicuramente aria pulita, no? È quella di Porto Torre, la zona industriale. Eh beh, certo, quello è poco ma sicuro, dai. Avanti Gianni o chi stava parlando? E dai, riprendo io. Mario, comunque adesso la modulazione è pure diversa, è più forte. Kappa, già. Ascolta, mio figlio mi ha detto vedere come va la zappa. Zappa? La zappa, il piede lì. Ah, no, la ginocchio. Già mi sono rimasto a posto dopo che mi hanno operato. Ah, ti hanno operato? Io non sapevo nulla, me l'ha detto adesso perché ti ha sentito. Mi ha detto chiedere come va la gamba, che però non mi ha detto nulla. Sì, al menisco mi hanno operato. E vabbè, adesso c'è. Stiamo facendo un po' di infiltrazione, ma fra poco dentro la vola. Boh, sempre quel baracchino. Ma che virus è caricato? A me c'erano problemi, adesso un segnale è un po' più costante, ma poco fa partiva, di 4 punti passava il segnale, è allucinante, qualche problema c'era, o il baracchino o il cavo, perché se toccava il cavo cambiava, o c'era il cavo in corto. Comunque è serata strana questa sera per i baracchini, e cambio. Gianni, hai visto quanto si assomiglia alla voce di coso, di Giuseppe a quella di Capri? Non parliamo di forza, di radio, però sono molto simili come modulazione. Prova. E prova a parlare. E dicevo poco fa, Gianni, che assomiglia molto, eh? A quest'oggi per i baracchini. Ma per me no, Robè. Infatti, ho detto, c'è la che mi dà cincino, mi pare che mi ritira. Dime, fratello. Assomiglia parecchio, Siamo molto più bassa, però se lui si mette un microfono tipo quello di Capri, si assomiglia a me, come tu ti assomigli a Tonino da Usini, franchetto micidiale. No. Franchetto sì, però l'assomiglianza tra Giuseppe e Capri non la vedo. Forse perché Giuseppe ce l'hai vicino ed è fortissimo, Mario. Però se io sono convinto, se lui si mette un microfono amplificato come forte come quello di Capri, un po' di assomiglianza. Io parlo come tonalità, poi non fa, naturalmente si distinguono una dall'altra. Ma per il 48 il microfono amplificato che cosa si può mettere? Tutto, li puoi mettere, tanto già va bene con tutto, con il baracchino non li buchi, che li metti qualunque cosa e funziona. Se ti faccio fare male li metti le meno 93, non sono male. Lui non c'è il 48 normale, Roberto. Scusa, non ho capito, ma questa parola l'abbiamo detto già. Non è il 48 normale, lui. Che è 48 c'è, quello plus. C'è il muso. Vabbè, ma tanto la sera base è più o meno la stessa, ma così. Hanno l'up-down, queste storie, non è che sia. Allora, io ti consiglio, proprio ti vuoi cambiare il microfono, però poi devi rinunciare alla pistola al microfono. Perché tu lo usi già? Giuseppe. Gianni, non ho copiato, cambio. Io se vuoi così io te lo do, ma devi rinunciare all'up down del microfono. E da questa ditta dove te lo mandano già con lo spinotto che va bene per lì. Dici che baracchino hai, tu dici ma mi serve la connessione per questo tipo di apparato. Il DM1000, questo che sto usando io, va benissimo, si può usare come microfono amplificato oppure anche con l'eco. Guarda, ti faccio sentire che cosa fa. Ecco, a voi Giuseppe. Sei uscito con l'eco. Anni. Non ho capito, c'è rimasto male già. Giuseppe, cambia. Stiamo a casa, sì. Benvenuto e buona serata, cambio. Ma no, già hai visto, mi sono detto io, se lo va a portare, cambia. Mi sembra la voce di Gianni questa. Ecco, ecco, voi Giuseppe. Gianni. Ma cosa si dice? Si dice che mi sono un po' fatto la faccia. Dicendo, se ci sono male senza lei, che sto vero Roberto? Non avevi ecco per niente, hai sbagliato. Sì, ti hanno registrato, ti hanno mandato la tua registrazione comunque. Sì. Comunque adesso ho sentito la voce tua, bassa bassa, Santiago 5. Perché non si vuole andare a vedere? Provando. La voce mia di quello che stavo dicendo io. Ah, così, allora va bene, giusto. Comunque, non c'è uscito niente. Ecco, a voi, aria, nuda. E vabbè, volete che sbagliato ci danno i potenziofi. Comunque, visto Giuseppe che cosa fa, lo puoi usare sia così, guarda. Lo metti a zero, ti fa solo da microfono amplificato, sia con un pochino di amplificazione, sia con l'amplificazione ampia. Va benissimo allora, Gianni. Poi se ti faccio accelerare, che lo dice a Pierpaolo, dillo a Pierpaolo. Cosa? Gli ho detto, se vuoi sfasciare le orecchie, lo vedi a Pierpaolo. Possiamo anche migliorare. Questa costa 25 euro, come spedizione lo paghi 35. Ah, fam. Sai, non c'è il suo microfono già anche senza spendere così tanto. Sì, non si vede a nulla. Sì, no, tanto non ha, deve fare grossissime prestazioni, a lui parla ogni tanto, dai. Va bene così, Roberto, più basso sono. Sì, forse avete parlato in due. Sì, o se ha solo il microfono, boh, comunque un po' è migliorato, un po' più basso, se riprova a vedere. Sì, già sono io, non lo fai io. No, non sono voce, no. No, beh, sto parlando anche a 40 centimetri, cavolo, cosa devo mettere? Allora, adesso vi faccio dare il microfono di quello per i nani. Ma sai cosa c'è il bullino? C'è anche detto tu le pistole, ci sono silenziature, tu puoi prendere le silenziature al microfono. Ti compio abbastanza. Aspetta, ma tu l'hai messo la portata? No. Pure l'ha messo la portata, è certo quando stai parlando. Qualcuno mi ha messo la portata, mi ha superato. La lunga è della 9.30 qua, di più pura. E allora quello è una carogna. Sai che mi hanno salutato, chi è che chiama? Chi sei, Mondino? Ciao Mondino, non so se senti anche gli altri, comunque c'è Gianni, Falchetto, Pierpaolo, Giuseppe da Procure, poi Falchetto, ne ha giocato qualcuno, avanti, diciamo da Pierpaolo, là. Non lo sento io Mondino, comunque se sente lui a me, ciao, buonasera. E dico a Pierpaolo, Mondino. Vabbè, dice ha sentito solo a me e saluta a tutti in generale, là, sta facendo altre cose. Ciao Mondino, fatti sentire, e come al solito, migliorate, ne ha detto un sacco di volte. Ok, di nuovo Mondino, buon tutto. Avanti Falchetto. Sì, avete parlato in due di nuovo. Ah, io decidi di metterti questa antenna, che ti vogliamo sentire bello forte. Ah, già, ci sentiamo. Avanti, Falchi, scusa, ma volevo vedere se mi ascoltano. Ciao Mondino, se mi ascolti, già c'è Roberto di Palaponte. Lunda, va bene, dai. Epiloghiamo, poi chi c'era? Mi sono aiutato a qualcuno, avanti Giuseppe di nuovo. Sì, grazie Robè. Era giusto per dare una comunicazione di servizio per Pierpaolo, cambio. Sì. Niente, poco fa è entrato K2 Pierpaolo. Sì, K, già ho sentito, forte e chiaro. Va bene Pierpa, va bene. Cava. No, questo è il Tana più 3. E io più sordo dell'altro, è troppo alto se il Tana più 3, mi stai facendo più sordo. Non è possibile che sia più alto dell'altro, eh. Ma io, cosa dici? Dai, questo è masso. Dipende per fare, riprova di nuovo. Guarda, questo è il Tana più 3 con il Superstar. Ed è massissimo. È forte quanto l'altro, non lo so, per me di livello non è cambiato niente. Il segnale, com'è il rapporto del segnale con l'audio? Cosa vuol dire il rapporto del segnale? C'è la modulazione? La modulazione, il segnale, la modulazione me l'ha chiamata, il segnale. Il segnale è sempre 9.15, 9.20, anche di 9.20, sì, dai. No, ma questo posso accomodare con il porto, questo è il porto, com'è? 9.5 e l'altro 9.15, 9.20. Prima, ma stai passando dall'apparato tu adesso? Stavo parlando, ho sentito il pulsante, ma se giro il pulsante all'interno a me, se giro il trimmer del microfono si spegne, è proprio lo conosco come il primo puntino è appena appena. E infatti quello che ti voglio dire io, alza un peluzzino il timer, che non fa, è proprio, forse è troppo basso il timer, alza per appena il timer e passa il Mickey Game allo stesso modo. Fatto, ma il giorno di avere così va bene. Ma quello che mi ricorda, perché se il problema è che sta saturando l'uscita dell'autoradio, non dimmi dell'autoradio, del baracchino, il timer ti amplifica la distorsione, però se tu magari diminuisci un pochettino quello delle micchighe dell'apparato e sollevi quello del timer, che sicuramente è superiore come circuito di amplificazione rispetto a quello che c'è sul baracchino, forse riesci a migliorare. Prova a mettere le due cose, metti un peluzzino del timer e diminuisci un peluzzino l'altro, quello dell'apparato. Certo, così va bene. Ecco qua. Così è l'orecchio mio, mi va benissimo, perfetto. Poi, non so se anche ti serve più forte, per me così sei perfetto come livelli, non sta distorcendo né niente. Seguo così, questa è la posizione ideale. Poi, Gianni, mi piace il bombardamento, chiedi conferma a lui, parla con Gianni. Attento Roberto, quadrato, come mi ascolti ora? Cambio. Adesso c'è una bomba, con quale sta uscendo? Adesso sto uscendo col Midland. Adesso sei tu 9.25, sì. Ecco, sono contento, da. Cosa è andato? Non esce più. Infatti, metto da parte, sono compiti tutti. Però fai uno per fa, che riconferma a Gianni e a Mario. Cava, cava. Gianni, va bene per te. La modulazione è normale adesso. Per me andava meglio prima come la... Ma abbiamo un diverso tipo di gusti con Roberto. A me gli piace che scambello forte, a lui gli piace musica da salotto, ma musica... modulazione da salotto. Cava, cava. Vabbè, comunque... Lo devi vedere tu come piace a te, lo devi mettere io. Per me va bene tutte le maniere, dai. Giuseppe! Gianni, eccomi. Vedi, Gianni, Peppa è un peluzzino più forte di te, però non sta distorcendo. Lui poco fa era molto più forte, però stava distorcendo, cioè la voce perdeva di qualità, diceva distorsione. Adesso non è in distorsione, ed è un peluzzino più alto di te, però a me non è pulita. Poco fa era troppo distorta la voce. Magava, vabbè. Io... Diciamo che mi accontento il comesto. Oh, Robè! Santo Dio, mi sono accontato. Tanto qua sembra quasi un baracchino neanche normale, sembra un coro, sembra il Midland della 48. Allora, un giorno, se capita, io faccio venire uno a casa mia, o Gianni, o chi ti per te, facciamo vedere, ti faccio parlare, e poi mi dici a vedere se sei masso o se sei go. Sto dicendo, tu e capri due siete allucinanti, adesso secondo me tu sei perfetto come livello di saturazione, cioè puoi salire però tutto quello che stai salendo è già distorsione, così sei al limite della distorsione. Gianni è un peluzzino più basso di te, però c'è anche voce diversa dalla tua. Ci mette lo stesso livello di intensità di segnale, di modulazione. Tu sei un pochino più alto, per cui non è vero quello che sta dicendo. Io ho qua dedicato il livello a lei, a base fluorescente, e lì su male non ti ne dici. Io mi sento bassissimo, Mi ascolto qua, mi sento ma molto, molto basso. Va, sei perfetto. Poi, naturalmente, basso rispetto a come ti dici prima, sei un quarto di modulazione. Però quello è un altro discorso. Io ti sto dicendo, tu così sei pulito, non stai distorcendo. Come solo che un pochettino inizia a distorcere. Il problema della distorsione, ti ripeto, non è la microfono, è la distorsione dell'apparato. Perché se tu adesso alzi il timer, magari non distorce ancora. Solo che appena appena l'apparato e va già in distorsione del Mickey Game. Eppure a me non mi hanno mai detto che esco. Non mi hanno detto mai che esco distorto, ma una cosa, cioè, sei tutto pieno di effetti strani, elicotteri, baracchino, elicotteri, aeroplani, portaerei, tutto vai sul baracchino, la forza fare non se ne accorgi, io sto parlando, ascoltandoti la voce quando parli lentamente, scandisci le parole, ti ascolto perfettamente, mentre quando c'è quella roba là, sembra come ti ho detto io, che c'è un megafono attaccato alla bocca, la forza che è un po' di distorsione, cioè normale, dai. Posso entrare un attimo, cambio? Ah, sì. Non so se voi lo sentite ogni tanto come un fischio di distorsione, cambio. Che cosa? Mi riferisci? Dico a voi, voi nel vostro apparato sentite ogni tanto come un fischio lungo, come una distorsione, cambio. Non parli tu o qualcuno o quando parlo io così a questo momento? No, in questo momento no, ma quando parlava Pierpaolo veniva coperto da un fischio, cambio. No, non l'ho sentito io. Però confronto con Giuseppe non è amplificato, è così quanto è più bassa la modulazione rispetto a Pierpaolo, per cui sta amplificando quel microfono. Ora beh, chi c'è rimasto? Allora, Franchi, prendi tu. Gaffa, che cosa? No, io sento, sì, pulita, però molto più basso, ma era troppo alto prima, non significa niente essere più basso adesso, io sto parlando di distorsione. Se lui alza, ti sto dicendo adesso io lo posso ascoltare, io prima per farlo mi devo girare l'orecchio alla tappa che sennò mi fai fermare. Ma così è pulitissimo comunque, perfetta. Lo metto a livello, io ho un riferimento qua in questo apparato. E mi dice, oltre quel punto che stai già andando in distorsione, c'è un indicatore, non è che le sto facendo lì con le regolazioni. E so che a quel punto lì non si può andare oltre. Tutto quello che è oltre vuol dire che c'è distorsione. Per Paolo a questo punto sta andando bene, poi può salire ancora, però è tutto distorto quel pezzettino lì. Poi magari se tu c'hai un altro palantino piccolino, giocattolino, non ce ne fa neanche conto. Io lo sto ascoltando con un altro palante esterno, una cassa chiusa, neanche l'altro palante da 13, una cassa di un certo pregio. Per cui me ne accorgo se lui sta distorcendo. Facciamo riprendere a Giuseppe se c'è ancora. Sì, positivo Pierpa, sono sempre qua. Ti sento più basso degli altri giorni, però ti gonfio abbastanza bene, dai. Sì, ma quello non ero io che era falchetto, che questo sono io, Pierpa, sono questo. Ah, ho capito, quindi ho fatto un mezzo casino e ancora non ho toccato niente, parola. Mi sa che vabbè cosa mi cambi per non lasciarmi la mia microfonia. Cosa devi fare? Tanto ne hai due baracchini, questo diciamo è baracchino per Sassari, ma non per Sassari usa questo, così ci abituiamo di nuovo, solo che non ti riconoscono. E poi quando devi fare attenti mi attacchi l'altro. Ma Roberto è un problema però, che proprio un po' di tempo per arrivare l'altro pure, come facciamo? Ma lo so, io lo so che faccio, prendo un cuscino e lo metto sopra l'altro parlante qua, così quando parli tu glielo butto sopra, così non mi faccio la lecce. E poi mi hanno detto che quello che deve rimanere è molto schittino, Se veramente non tanto, io non lo so, sto credendo a quello che mi dici tu, per me sei perfetto, cioè tutta la tonalità non hai esaltato né di niente, pulita, guarda. Non pensavo che voglio essere proprio pigliato, quindi ho un pochettino di acuti in più, però per me è la tua voce, per cui non diciamo niente, per me è andata alla grande. Quando sei più forte allora ti metto la porta a te, così non ti faccio più modulare. Riconosce, soltanto non prendo la portata, si riconosce, no, a voi dove c'è un tarla più tre, che sono un tarla più tre, se vuoi ci posso anche attaccare le leve più 4, le leve più 5, non so, ce li ho tutti, Sì, già, dovrebbe essere lontano. A me sta portando sempre perché dovrebbe essere lontano, perché no, come sollevi non distorce. No, amplifica senza distorcere. Se tu metti un MB più 5 appena sollevi, ti cambia anche le tonalità. Sì, già lo so, ma questo qua è... c'è il tarra più 3, no, ci sono... non ho nessun interesse di dire quello per un altro, se vuoi. Devo cambiare la connessione e ti faccio sentire MB più 4, più 5, ti stai riportando tutti i rumori di fondo appresso. Vabbè, quando è più forte no, che gli arriva là, se gli metto la portante io e così non lo faccio più chiacchierare. Gli hanno capito che ha schiacciato Mario, non aveva bisogno di dirlo, avanti. Che cosa? Non ho capito. Che ti ha schiacciato Mario, e Vicenza era diventato quasi a Vicenza, però Mario è un po' più forte, dai, ripeti Mario. Ho detto, Pierpa, quando ti arriva l'altro che è più schidino, no? Ti pongo la porta a te, così non ti posso far vedere. sì, eh. Almeno, perché? Cosa ti fa? Le orecchie ti assorda. No, cioè ma più o meno dovresti essere come la mia, come voce, c'è cioè la voce grossa come me. E quando parlo a tutti quanti gli sordo. All'incirca sì, c'ho la voce grossa, c'ho io. Ma quell'altro apparato è il tipo di modulazione che c'ha così. No, questo già si può, la verità già si può abbassare, beh. Ma qua non riesce a abbassarlo, ce la passi, la voce diventa tutta distorta, non si capisce più niente. Prendo un secondo io, Pierpaolo. Vai, vai. Sì, per salutare Mario, niente, ci sentiamo fra 10 minuti, dai, faccio una sosta. Va bene, ok, riprendi Roberto. E adesso, a questo punto, Gianni, se ancora Roberto, non c'è problema. A questo punto, senti a Mario Mars e poi sentiamo a Pierpaolo. Cioè, avete più o meno la stessa potenza di voce, parliamo. Dovete fare tutti e due i baritoni, si chiamano, quelli che fanno musica, che cantano. Però Mario è un quarto di te, per dire adesso, perché lui non è amplificato. Ma io sono normale, Roberto. Microfono normalissimo e apparato di quelli molto vecchi, perché è un Midland, ma di quello a 34 canali, non è grosso, capito? E niente, non puoi regolare nulla qui. Certo, detto bene, perché già ne ha detto, non si vede neanche di amplificata. Magari non è amplificata come c'era la prima, anche non si vede, non si sente, però quando lo confronta con te, che non si è amplificato, o con Giuseppe, a lei si intende la differenza. Aspetta, dico cosa ti ascolti, tu non l'hai compreso. Poi ascolto con un altro apparato, ovviamente. Eh sì, ma un altro apparato, con l'altro apparato dell'altro apparato, no? Con le cuffie, con quale ti stai ascoltando? Con le cuffie mi ascolto, io che parlo ascolto, vero? Ma molte volte qualcuno si ascolta con l'altro parlante dell'apparato ed è una gagliata, no? Nemmeno non si capisce niente. Tu se ti vuoi sentire male ti prendi le cuffie e poi mi dici se stai uscendo male tu. E poi prova a alzare il volume come ti alzi tu. E ti dici tu che conosci più di quella parte, la tua voce, ti rendi conto com'è la differenza tra uno e l'altro. Comunque vabbè, tu dici che c'ha il coso lì che riesce a stabilire che sto distruggendo. Guarda, la distorsione, non so, se la ascolti con l'orecchio e mi dici che sto distorcendo, sì, ma se me lo dici che per un apparecchio che c'hai, non credo proprio, perché, allora, ti dico perché ne sono sicuro che non distorce, perché io in questo momento ho attaccato, per esempio, quando stavo parlando con te anche col Turner, ero aumentato e diminuito, ho attaccato esatto rispetto. Le punte massime non danno distorsione. Adesso secondo me tu hai cambiato apparato e stai distorcendo in questo passaggio. Guarda, io ho cambiato apparato, ho riacceso altro, e l'ho acceso appunto per me se c'erano distorsioni, e l'analizzatore di spettro dice che non ce n'è. Vabbè, io posso dire altre cose, comunque vabbè, non ti metto a puntigliare. Io addirittura adesso mi hanno dato un programma la settimana avanti ieri, no, cosa vedere, mi hanno dato un programma sul computer, con quello ci abbiamo anche altre operazioni, oltre che vedere quello che vedo qua, quello che ha la forma d'onda, l'ampiezza, eccetera, eccetera, e quello che ha tutto quello che c'è a disposizione, volevo abbinare all'apparato. Purtroppo un collegamento non mi ha dato a buon fine, per cui devo mettere un altro capo. Così allora vi posso dire, effettivamente, una volta l'ha fatto questo qua, un certo Marco, se lo conoscete, è un radioamatore che ha le attrezzature che ti permettono di dare dei controlli efficaci e precisi, e ci ha fatto controllato tutti quanti, sia in emissione, in modulazione che il resto. Tra poco lo potrò fare anche io, così possiamo dire, quando parli ti registro l'immagine, perché posso anche registrarti l'immagine di modulazione, blocco, tipo un registratore, blocco l'immagine, la forma non la dico, questo sei tu, i libri di saturazione sono qui, e con quello non sbagli. Guarda, Roberto, questo è un software che costa una bellezza di quasi 400 euro. Io adesso sto guardando anche il tuo picco di frequenza. Ti posso dire anche di quanto sei dentro la frequenza. Ti posso dire tutto quanto. È possibile, la distorsione che mi stai dicendo è possibile. Impossibile. invece. Adesso parlo di torsione e di modulazione, non sto parlando di altre cose che non le posso vedere. Di modulazione non ce n'è di torsione. Questa che tu senti non è una distorsione, è una cosa fatta di questo apparecchio così. Esce con questa modulazione così, ma è una cosa sua fatta apposta e non si chiama distorsione. È perché sotto c'è l'elicottero con un eco e fa questa voce così, ma non è assolutamente distorsione. Senta, fai la controprova come hai detto di tutto. Io ti sto dicendo, in questo momento tu stai saturando. Poi, se mi dici che se qualche no sono due pareri diversi, te lo rispetto, io ti dico quello che ascolto qua. A casa tua magari ti ascolti diversa. La parte mia è quello, fai la controprova togliendone tutto. Un giorno per passo e capita, io ti faccio vedere cosa sto utilizzando e con cosa ti sto ascoltando e che tu vedi ciò per vedere quello che sto dicendo io, non è sto dicendo orecchio, perché orecchio posso dirti anche se si dice magari c'ho l'orecchio sordo, non lo so, un sacco di... Io qua ho dei riferimenti presi con certi segnali campione, non è che ti stanno a occhio questi segnali e ti posso dire che tu sei oltre il limite della saturazione. Dicendo che fa schifo, ma non prendo per favore, io ti sto dicendo, tu devi arrivare a questo punto qua per sentirti al 100%, tutto quello che c'è in più sei oltre il 100%, perché il limite di modulazione è il 100%, tu sei oltre, cioè, è come che si prende un autoradio, si sente la musica a livello ottimale di quello strumento è a un certo livello, per dire, lo devi sentire al volume di 5 per sentire la realtà dello strumento, così come dal vero. Quando suoni per ancora più tu lo stai sentendo più forte di quello della natura, di quello che è nato per fare quello strumento, la dinamica chiamiamo, tu c'hai un segnale un pochettino più forte di quello che dovrebbe essere il segnale ideale. Questo non significa che può piacere a qualcuno o ad altri no, io ti dico quello che è, che senso, anzi che è vero questo. Poi risalivi a 9, Quando viene Pompogno glielo facciamo visitare. Arriva a 9.40, poi non lo so se è preciso o meno, questo qui ti sto dicendo, non ci ho mai modulato, questa qui è la prima volta. Sicuramente c'è qualche problema, è possibile, direi arriverò a 9.20 dalle zone 2 più o meno come trasportamento è 9.25, no? Vabbè, se non mi credi, scendi a casa e te lo faccio vedere, cosa vuoi ti dica? Poni un canale, quella portante, ma non è che te lo posso vedere, non è che io me lo invento, no. Però ti ripeto, questo qui io non l'ho mai usato perché me l'hanno dato da poco, l'ho piazzato lì, ho visto che la ricezione c'era, e niente, l'ho messo lì ma non l'ho mai usato. No, non sto dubitando di quello che leggi tu, ma è impossibile che ci sia un segnale del genere, è incredibile, cioè tu puoi leggere anche 10, 9.50, però è impossibile fisicamente che sia un segnale reale quello, ci credo che tu lo stai leggendo, ci mancherebbe. Gappa. E io come ti sto arrivando adesso lì, Roberto? 9.25. Ehi, va bene, là, per la distanza che abbiamo. E io allora sono vicino a te, non arrivo in quella vita. E i loghi, lo smette i loghi, quando parli tu si incolla. No, c'è qualche cosa che non va allora. Allora, tu per l'esattezza stai arrivando a 9.50 come segnale, poi quando moduli c'hai i picchi ti arriva a 9.60. Già, ma quando deve essere c'è qualche cosa, che non va, deve essere tarato, no, vabbè. E fuori di coso, così io ho il Mubicom, quello lì è a vado invece, c'ha due strumenti, cosa scusa? No, scusate, per suonare, c'ha due strumenti, uno analogico e uno digitale, quello digitale è abbastanza credibile, ma quello analogico, Marco, se ci metti sotto casa riesce ad arrivare a fondo scala. E gappa, cioè io purtroppo lo sto guardando, sono in piedi davanti al mobile, anche perché questo qui è molto in alto, e questo che deve stare a camminare per bendarlo. Perché poi altezza d'occhio c'ho gli altri apparati qui dell'ABM. Però per qua, una domanda. Forse io sono l'unico di tutta la frequenza, o dimostrano il contrario, che gli piace una radio tranquilla, pulita e chiara. C'è qualcuno altro, oltre a me, che abbia mai fatto una osservazione del genere? Non mi viene a mettere nessuno. Non credo. Appunto, quelli sono i dati della maggioranza. Se piace agli altri così, io sto mangiando, scusate, c'ho un pezzo di pane. Io ho sempre detto che mi piacciono le radio tranquille senza essere troppo amplificate. Non è quello che non so, ma se tu ritiri quello che ti ha detto anche Antonio prima, ma tu credi di essere basso? Allora io la prima cosa che dico quando attacco, se sono troppo alto ditemelo e abbasso il microfono. Ma avete detto no, va bene, io mi sono fidato di quello che io non mi posso ascoltare, cioè non mi sono mai ascoltato, dovrei cambiare un altro apparato per sentirlo. Ma non sei neanche basso così da essere tranquillo. Se dici tranquillo deve essere un poco più magari di una radio normale, ma non è che c'è una bella amplificazione. Però guarda che per me va bene, va molto bene. A me piace questa modulazione che abbastanza perché siete abbastanza simili come voce, però lui adesso ha la metà di quella che sta utilizzando tu, è basso rispetto a quello che dovrebbe essere, però tu mi sei a Matteo. Forse a te, ma qua Mario arriva con un mocione bello pieno, forse a distanza, non lo so, però arriva con un mocione bello pieno, e da sentire qua, cioè ci sono queste differenze, ci sono, capito? Ma per esempio tu hai una bella amplificazione, non è passata come sei tu, è una bella amplificazione che a me piace, questa qua. Piccolino io, normale, microfono normale, originale dall'apparato. Normale, però sembra bella piena perché magari ho l'avvicinato qualcosa, ho il mocione, non lo so, però è bella piena lo stesso. A me per così piace. Io quando sento quella vocettina leggera, leggera, leggera, non mi piace. Scusa, non mi sono spiegato, neanche a me mi piace quella vocettina leggera leggera, però quando, per dire, quella di Giuseppe è un po' bassa, quella di Mario adesso è un po' bassa rispetto a quello che potrebbe essere, però quando ne sento una che cacchio blu, troppo che sembra un camion di quelle dei camionisti, fortissima, e proprio la paura in città, dico, questo è troppo. A me non è mai troppo, io faccio un volume di agonia, e ne so che passa le... Considerando che stiamo parlando qua in città, secondo me in città siamo tutti vicini, non se ne ha fatto nulla di spaccare il timpano. Perché succede? Tu e Capri mi ammazzate, poi parla Giuseppe, dice, ah, cos'è adesso? Perché ho abbassato il volume di cose, devo ritornare all'altra. Poi vedi tu di nuovo, tac, mi arriva. Io non sto scherzando, tu pensi che io sto scherzando. Mi fanno male le orecchie quando parlate voi, perché vedete, se parlo con Giulio, con Gianni, tengo il volume, non accettavo, lo tengo un po' più sollevato. Quando parlate voi, io devo abbassare un verso, sennò non mi fate male la recce. Due Capri, mi sfasciate i timpani. Ma è un problema, Giulio, è un problema tuo. Non lo so, non mi hanno mai detto niente che mi provocò. Ma le orecchie è cosa? Aiutami tu, perché le orecchie ti spacco. No, ragazzi, io ti sento bene, no? Non c'è problema da questa parte. Sei forte, sì, quello è vero, sei forte. Va bene comunque, dai. Cavagava, mi stai mettendo in riposo, poi mi metti in condizione che ti creo danno ai timpani e mi addebiti anche i timpani. Infatti poi mi tocca fare assicurare, no, a parte di scherza, non c'è problema, continuare a fare quello che vuoi fare, ma sarò io certo a dirti quello che devi fare. Io ti dico una cosa, una volta è venuto un amico mio, una persona anziana, di una certa età, era di Amattone, questo ha una settantina d'anni, e loro sono abituati probabilmente a utilizzare altre cose, a ascoltare altre cose, perché questo fa CVW, ascolta con le cuffie normalmente. Quando è venuto qua, un giorno l'ho fatto entrare nella stazione, mi ha detto, io non capisco niente, io forse sono diverso da voi, non lo so, dice, io non riesco a capire quello che stanno dicendo, e c'era uno di i microfoni, io non riesco a capire quello che stanno dicendo, perché talmente c'ha l'orecchio abituato ai segnali bassi, tu a me mi dirai, io in officina rivolto il rumore, molette, cose rumorose, vai di lì, vieni tu e ti faccio i timpani, però io qua a casa, che voglio, sono abituato magari a stare più tranquillo, si detto, basta una cosa, ha dato volume, ma cosa mi dà fastidio? Esatto, no, non mi danno fastidio a me le muette, nelle muette, nuda, so perfettamente il rumore dell'officina, perché, dico anche perché, diciamo 25 anni fa, prima di fare altri mestieri, facevo proprio quello. Come faccio io? Dove è l'officina lavorata? Fratelli Solinas. Da Puglio, che ho cacciato da vino, amicissimi, e che figli conosco, compagni di infanzia. Signor Davino, signor Giovanni, signor Francesco, tutti e tre fratelli conosciuti. Era quello di mio padre, signor Davino. ci conosciamo una vita, sono poco che non lo vedo, l'anno scorso esattamente l'ho visto l'ultima volta a una riunione, il figlio ogni tanto lo vedo, quello più piccolo, Giancarlo era quello che era cameriere, poi si riuscita e poi c'è la figlia, Giancarlo, quella è una persona di vita, ci conosciamo bene, abbiamo fatto le fratelli assieme con il figlio. Davide comunque non era, a conoscerlo io non era Davide, Davide era, diciamo, sotto le dipendenze del fratello di Giovanni, era l'officina di Pia Margherotti, Sì, sì, sì, lo so, c'era un Nino, era il padrone, anche se lì è tutta una cosa strana, che non se ne è mai compreso nulla, perché l'ufficio aveva sempre tutti e tre, poi non ho mai capito come mai quello contava di più, quello signor Nino, e poi c'era l'altro, quello che c'era al circolo, come si chiama, Francesco, così. Quello è Francesco, sì, quello è Francesco, è il titolare comunque era il signor Giovanni, l'ufficio in realtà è il signor Giovanni, perché... Giovanni era andato a Torino a lavorare, ci ha fatto un sacco di anni, ma è un ottimo operaio, un bravissimo operaio, uno dei pochi lamieristi rimasti, anche se adesso non sta facendo niente, ed è la scuola di mio padre, diciamo, di quelli vecchi, da quelli bravi. Molto bravo, molto bravo, Gavino, comunque anche signor Nino, non era male, tranne quando sollevava il gomito. Lo sì, loro sono nati come fabbri però, diciamo, hanno iniziato su come fabbri, poi si sono specializzati sulle carrozzerie, però erano un'officina storica, diciamo, una delle primissime che c'era qua a Sassari. Ok, aspetta, se stiamo monopolizzando, di nuovo vediamo, facciamo un giro, chi è rimasto, c'è Falchetto, poi vediamo se c'è rimasto qualche donato, un attimo, avanti. I carabinieri. Fammi stanno, diciamo, anche se facciamo quelle, ci sentiamo con calma, non per quella storia là, dai. E c'è passato sotto casa tua, ho sentito quasi mezz'ora con Fabio, più nel posto dove abitava Mario. Scusa, ma che cosa sto facendo? No, solo cognome tuo, non ho saputo niente, è sceso una ragazza bionda. Poi ho visto che non sei sceso, siccome il cognome tuo non lo so, lo sai. E quindi ho stato su giù mezz'ora e poi sono andato a giocare a Conrad. Ho fatto la spesa e poi mi sono tornato qua. Ecco, se mi hai detto che non fatto di dire con me, sono andato il campano, ti so che esiste, vabbè, non succede niente, ma mi dispiace che sei venuto per niente. Sì, vabbè, comunque sono qua. Se devo passare la male, ma sì, qua sono qua a casa. Devo lasciare dove abito, sopra cosa, la... dove c'è dentro più. Dove ci scendo giù e davanti al party porto quel pezzo. E la stessa cosa, io non so il cognome tuo, dovevo farmi a qualcuno magari il numero di telefono, ma magari non c'è il numero di tuo di telefono, Gianni. No, è trovo io, c'è problema la macchina, non è quello il problema, no. Se vuoi che lo metto te lo segni. Ma a me non mi piace la mia, se me lo vuoi dare non c'è problema, ma io non me voglio, se ne avessi, cioè sarebbe meglio non dargli mai il numero di telefono al baracchino. Via, segna, sono io che te lo do. Aspetta, dimmi, allora. 3-4-0-9-2-9-3-210. Va bene, poi ti metto lo scudo io così magari evitiamo di non coincidere. Ma mi dispiace che sono venuto, ho detto non sai il nome mio, e tu hai detto sì, il cognome mio. Non è che mi sono sbagliato, siamo in pochi nel palazzo, siamo in sì. Però no, mi dispiace. Tu non lo sapevo niente per cognomi. Sono giù, aspettami già a 4 ore, non siamo neanche capiti. E quindi, vediamo che scenda. Subito quando sei sceso, mi sono fatto una spesa, posso essere giù a casa qua. Ah, mi ti passi qui, domani non c'è problema, mi fanno squillo. Tanto sono qui a casa. Ah, mi ti passi qua, dopo che finisco di lavorare, per dire, 2 minuti, passi qui, ti vuoi prendere e te lo scendi a casa tua, tanto sei vicino. Scusa, va bene, no? Sì, dove fate? Andami. Sì, via. Quanto tanto vuoi quella fare? Il pezzo laggiù, no, dove gli attina l'ho preso. Lo piglio dove gli attina, lo scende giù a coso, dove gli attina. Prendo quel pezzo così te lo porto su. Certo, dai, e poi ci sentiamo in radio magari, dai. Oh, chiamando Mario poco fa, vatti Mario. Guarda che forse mi si è spaccato il modulatore dell'hardware, su me. Perché non riesci più manco di patate a stare? No. Come stai facendo adesso, lunga? No. La macchina non può salire qua, no? Ma portamelo su. Se vuoi ci faccio una scappata. Vabbè, ci vediamo, non sai dove è l'ingresso della pascolante, te lo ricordi che sono felice. Dove c'è il marciapone in pratica di fronte. Mica stiamo passando dove si va per il garage, te lo ricordi? Sì, l'ingresso del tuo garage, beh. Sì, ci troviamo lì davanti, là, all'ingresso della pascolante. Va bene, dammi il tempo di arrivare. Sono lì. Ma guardo. Ma ci porto l'apparato? Sì, portami l'apparecchio su, chiamalo giù io, poi se c'è altra roba da portare, che devo mettere a posto, portami anche quella, tu mi dici qua sotto cosa c'ha, cosa non c'ha, non c'è problema, me. Poi appena pronta, io scendo giù e ti controllo tutto. Beh, va buona, da, casomai mi porto un portatile, le cose ti chiamo quando sono giù. Sì, va bene, non c'è problema, già sono qua, portati la roba, non c'è problema. Quando stai uscendo me lo dici, intanto ci metti un patrolato che qui, intanto non c'è nessuno, ti aspetto fuori dove c'è la pascolante, ok? Ok, d'accordo, tempo di arrivare sono lì. Ok, quando stai uscendo dimmelo, già sono qua dalla via. Ehi, adesso faccio caricare tutto la Davide. Sì, yeah, ok. E hai dato Gianni, o sbaglio? Gianni, tu sì. C'era qualcuno sotto, sì. Avanti, allora, riproviamo. C'è Franchetto, va avanti prima per Paolo, eh. Aspetta, io adesso devo fare un attimino a mangiare qualche cosa. Devo prendere le medicine, mi mangio qualche cosetta e poi se ci senti ancora riprendo, là. Non parla poco comunque, un morso giusto per buttare giù le pastiglie. Risultati da parte di Cagliari che ha vinto 1-0, però se lo sappiamo cosa ha fatto. Io non lo so, Roberto, ha vinto 1-0 il Cagliari. Sì, il Cagliari ha vinto 1-0, però la Torre se volevo sapere, o il Marco, vabbè, il Marco sarà già finito, non si sa cosa ha fatto la Dinamo. No, non lo so, no. Oh, vabbè, dai, ci risentiamo. Va bene, avanti qualche. Capo, anch'io faccio un po' di carica, dai, vabbè, ci ascoltiamo dopo, dai. Se manca ancora un pochettino, tanto devo fare ora che poi devo guardare la partita. Se c'è qualcuno che è rimasto qua su 21. Vabbè dai, io faccio un attimo di QRX, dai. Rimango in ascolto, mangio un boccone e riprendo subito se c'è qualcuno, vai. Ehi, buona carica, non c'è problema. Attenzione 21, chi è rimasto? Avanti, chi vuole entrare? Buonasera, Natalino Alfa 1. Ciao Roberto. Non so chi ci sia in frequenza. Comunque. Mi dirai, avanti ancora a te. Ehi, allora c'è la partita andata a mangiare, c'è poi andata a mangiare, un attimo c'era Antonello, ma sta aspettando a Mario, Mario sta andando da Antonello, per cui penso che ci sia rimasto solo io in questo momento. Avanti di nuovo Natalino. No, ci sono anche io, ciao Natalino. Sto facendo caricare tutto in macchina da mio figlio, così gli porto queste tre cose e così me le guardo al volo. Ah, ciao Mario, ben sentito anche a te. Robè, bisogna che ti metti d'accordo con Salvatore per quella storia, tanto il numero c'è la Salvatore di Gianni, che ha preso quella capito. E così mi fate sapere. Ma sai, ti volevo coinvolgere Natali pure, che ci siamo sentiti avanti ieri. E a chi? Michele. Buonasera a tutti, Michele. No, Michele, molti ne ha conosciuto. Io ne conosco molti, sì. Buonasera a tutti, Massimiliano, tu sei? Sì, io. Qui la frazione del bulldozer, capo. No, Massimiliano, mi sentito, ti rilancio a Natalino, avanti Natalino. Buonasera a chi entra. Cosa ti volevo dire? Che Michele è? Non so di cognome come si chiama, perché l'altro giorno ci siamo sentiti su un'altra cosa e è venuto un discorso, ho detto lì, cioè, lui c'ha il numero tuo o tu c'hai il numero suo, sicuramente perché ha nominato a te. Sarà qualcuno. Chi è qualcuno? Michele, se ti sei sentito un'altra frequenza è Michele qualcuno. Io stavo giocando col PMR, con la bambina in casa, quelle walkie-talkie piccoline. È intervenuto lui, stavo lo stesso, mi ascoltava benissimo, tra l'altro, non mi immaginavo, perché abita probabilmente vicino a casa mia e ci siamo sediati a parlare con mia figlia, è intervenuto lui, per quello è venuto un discorso e poi ho detto, guarda, ci abbiamo sentito per il fatto della patente. E tu ce l'hai, lo dice lui, o tu non ho capito se tu c'è il numero suo o viceversa. E lui allora di che ne fa alcuno, li pigliata lì. Sì, diciamo anche il contatto internet, c'è cioè per quello, se mi vuole contattare non c'è problema. Vabbè dai, mettetevi d'accordo e fammi sapere, se mi chiede mi sa bene, dai. No, ma io non ho modo di rintracciarlo, eventualmente se tu c'hai il numero, qua lasci tu. E guarda a vedere se ce l'ho. Beh, detto così, cosa vuoi ti dica Natali? Dice che vi siete sentiti in altre situazioni. Io Kiva, vediamo un po' se lo trovo, il numero di quella persona. Ma quello di Natale è una cosa allucinante, è successo l'altro giorno. Cosa è successo? Io stavo giocando con mia figlia, poi tutta la notte tra questa tipa parlando, non la fa vedere, siamo stati un po' qua, mi fa te ti conosco, e lui fa di un'ora va vedere al telefono, fino a quando mi sa, per capire chi era questa tipa, questa persona, dice, dai per nome mio, cosa faccio, tutto quanto sapevo. Però anche Michele è caduto un'ora, ha detto, ma chi sei? Io perché detto, mi conosci bene, sono venuto a... ha detto, boh, tutto, il cervello per cercare di capire. Perché poi ho detto, ah, lui è sequestra. Poi dopo aver detto il nome, l'iniziale del nome, ha detto, no, non sono... Cacchia, aiuto. E ho detto, ah, fino un'ora a parlare. Dopo più di un'ora sono riuscito a capire chi era, perché mi ha detto cosa faceva e che cosa era. E sicura di tra un po' tu, chi mi non ero in coso sulla 27 che ci sono 10.000 persone che ascoltano, chi abita vicino a casa mia tra l'altro per lo scoperto. Infatti se vi ascoltate lì, perché a me mi verrebbe difficile a me ascoltarti. In LPT già ti ascolto. Oh, bisogna vedere se riesco a riesco a sentirti. Se ti sento magari mi senti anche tu col portatile. No, sarà molto difficile che mi senti colpire bene, ma poi parlando entra questo tipo, perché non ha dato il nome mio, questa persona ha detto no, mi chiamo Paolo, poi dopo un po' parlando, lei si è cambiata, ha cambiato il nome, Alessia si chiamava, eccetera eccetera, stavano parlando, però non ha dato il nome, poi alla fine ho capito chi era, e allora ha detto, ma non sai Roberto, ha detto non lo so, non lo... e lei alla fine ha detto, tanto in particolare, ha detto mi sa che ci sei cascata bene, e poi Michele, entra Michele, sono non so chi, ha detto tu almeno mi butti, ho detto tu sei quello, e poi alla fine stavamo parlando anche con lui. E K. Vabbè, già lo chiamo, là. E che canale la faccia, vabbè? E c'è un tuo canale, il PMR non c'è quella, è il canale 1. Tu ce l'hai il PMR? Ma certo che ce l'ho, quello che ne serve ce l'ho io. Se vuoi ti posso anche chiamare. Io non posso, mi ascolti. Aspetta che te lo accetto. Così minuto, so. Mi hai detto canale 1? Canale 1 è solo su bottone 0. Il subito non ne ho io, comunque mi preoccupa, aspetta. Ok, aspetta che ti mandano i toni, guarda se li senti. Senti nulla? Niente, senta, aspetta un attimino, guarda se senti a me tu. Naturalmente dobbiamo essere la stessa frequenza. E il mio scarico, gatto, non accende neanche. Mi hai sentito Antonio? Però è un'altra cosa così, dai. Infatti. Africa si possono anche modificare, proprio su questa qui c'è il Brundi, quello piccolino, c'è su una rivista, mi pare, pure elettronica, come farlo più potente, modificarlo, ma non me ne ha fatto nulla, cosa ne devo fare? Ancora ci sei? Arriverà tu ci sei? Che avanti? Ok, vabbè, capo di lui, ripreso. E ciao capo, c'è anche Natalino, te lo rilascio un po' di saluti, e c'è Antonio che stiamo facendo una prova con un PMR. Buonasera anche a te. Io sono buon cliente, ci avevo. La domenica avevano iniziato a farci visita, va bene. Capito? C'era gente di casa, bisogna attendere, riprendi Roberto. Va bene, beh. Ah, come va tanto? Ma non è che sei fuori frequenza dalla mia, no? Non lo so io, sono acceso. Che frequenza sei? Frequenza al canale 1, te lo dico, vabbè, non è digitale, non ce ne indica, però l'ho guardata sul registro delle frequenze, 446,006, questa è la frequenza esatta, qua mi dice solo canale 1, riprovo e poi provo io. Certo, vedi, sto provando. Ma sai un attimino, no? Guarda che ascolti a me invece, Antone, un attimino, senti il fisco. A te lo sto chiamando, Michele. Prova. No, lo sento io. Beh, comunque potrei fare un altro giorno, facciamo un'altra prova con l'altra antenna, vediamo un pochettino. Ecco, sto spendendo anche, non ho bisogno batteria. Facciamo una prova e così facciamo un po' provare anche Natalino, metto con l'antenna esterna, prego fare una modifica a questo giocattolo. Dovremmo sentire comunque perfettamente, con la potenza sono 500 mW, danno quelli lì, con l'antenna esterna sicuramente ci sentiamo tutti. Mi sembra 49 euro, perché prima costavano molto di più, li ho visti l'altro giorno alla città mercato, uguale al mio, 12,90 euro, e poi c'erano le Motorola che sono ancora più quelli, più robusti, diciamo, costavano 17 euro. Me li sono presi, ma ho detto, guarda, me li voto, ce li ho già due, perché erano più belli dei miei, ma per quello che li usi, ce li avevo, ma forse un paio di volte li ho usati questi. Ma scopo, con la frequenza è 447,0625. Anche se c'è 446,006 va bene lo stesso, tanto neanche se ne accoglie se si è spostato. Qua c'è scritto così, canale 1, 446,00625. Però mi ha detto la mia figlia, cosa hai detto? Ho detto che 446,00625 è la frequenza, canale 1. Sì, no, va bene, ma anche se non c'hai i decimali così profondi e fai 446,000, ti prendo lo stesso, non fa bene la prova. Ah, non uso, comunque, vabbè, bene mi ascolti questa antenna. C'è un rosio di brutto o ti sei abbassato come disegnato? Lo zio, sì. Un bel forte, rumore alternato. Sei che stai contento, di nuovo, è venuto, capri, dalla zona qua, a Colina, si è passato Sarrivio. E li ho sentiti quando stavano salendo, li ho sentiti, ho lasciato la scena, li ho sentiti, ho pregato la bomba, anche a siamo di sotto, ma qualcosa che controlli, se io in garage, io ce li ho, una coppia, Roberto, te la vado a contratti per comunicarci da una macchina all'altra, ora facevano un nuovo viaggio. No, mi è caduto in terra, ma da mezzo mese, da un 80 centimetri dal tavolino, e si sente più basso l'altro parlante. Si sente sempre, funziona tutto, però forse se l'ho provato anche a aprire, però sono di quelli altoparlanti particolari, tipo quelle capsule microfoniche, non si può fare niente perché sono ultrapiatti, si sente un po' più basso. E il mio invece non è quello, non si sente per nulla, ho capito a qualche nulla, anche lì una radio su che non mi sono. Però stavo cercando se la trova, si trova a comprare la parlante. Non lo so, sarà un po' difficile. Ma infatti mi ha comprato l'apparato nuovo, costano, ti ho detto, io ho pagato 49 euro qualche anno fa, ma li ho visti a città mercato, erano in offerta in quelle ceste grandi da Media World, 12,90 euro, verso ottobre, novembre, quel periodo lì da. E poi c'erano anche Motorola che erano un po' migliori, sono tutti uguali, non pensare che cambiano niente, però c'erano una tecnologia, io l'ho aperto ieri, non l'ho mai aperto, tu devi vedere la barra di miniaturizzazione che c'è dentro di componentistica, c'è un quarto dentro all'interno, e non mi ricordo se sta sui 26 MHz, una cosa del genere, poi ci sono i moltiplicatori, ma tu vedi quanto è fatto bene dopo questo apparato. Ok, sì, io, che io, per criptarlo, dai, me lo fatti, come si chiama, mettere sopra. Cioè, se vuoi parlare con qualcuno, non ti vuoi far disturbare, te ne vai su sotto canale, li chiamiamo su tutto, dai. Okay. Fanno 3 km di distanza e ci accontentano di quello lì, capito? Va bene, facciamo per le raccapi. Io ho visto anche quelli più potenti, quelli da Trevata, vedevano su internet, però quelli non è consentito l'uso, diciamo, uso normale non può utilizzare, sono fuori legge. Comunque c'erano su internet, venivano non so da dove, dalla Corea o dalla Cina, e c'erano numeri molti più alti di questo. Avanti nuovo Capri. Sì, ma l'autorizzatore richiedere e puoi dire alle persone che lo utilizzano, non è che te ne prendi tu e li fai dare a chi ti piace, vedi di utilizzare per lavoro. Ma fatto un amico mio che c'è un'attività che loro devono essere in contatto, un po' non è semplice, devi chiedere, chiedi questo autorizzatore, dici questo è il numero delle persone che lo utilizzano, devi dire i nomi delle persone che lo utilizzano, perché non è che ce l'hai tu e parli con chi, con uno parli. Se ne hai due devi fare dire lo uso io con quest'altra persona oppure con quest'altra persona. Credo che non si paghi niente, di questo non me lo ricordo sinceramente. No, cosa si paga se non hanno porta la concessione, però devi dichiarare chi li utilizza. Ma ci c'è tutto letto che non valgono niente le batterie mie. A me uno, infatti ce le ho buttate le batterie, stavano già perdendo ossido, e ci ho messo le batterie nuove. Io voglio più, adesso ci sono le due alimentazioni con la fiere, e c'è anche la scatola, aspettate un attimo. Fai, non c'è problema. Antonio, ma non avevi che cosa mai da te? Via, adesso sta aspettando tutto, voi mi sta chiamando per prima di venire qui. Questo è stato un ecco, Antonio. Raffa. Che si sente? No, vabbè, sto ascoltando. No, bella la radio. Ti ho detto così mi piacciono a me le radio, Antonio. Poi a me mi criticheranno mezzo Sassari perché non piacciono a nessuno le radio così tranquille. Io le voglio pulite e tranquille, senza distorsioni che mi facciano il timpa. Sì, calma. Non me ne devo dare tutto un attimo qua. Non è attiva. È venuto uno a casa e me l'ha chiesto di lavorare. Sta dando una cosa in cambio, una, e quindi sono le banche, diciamo, qua. Io ti devo un schermo da adesso. Vabbè, quando si fanno gli scambi che sono favorevoli per tutti e due non c'è problema, anche io l'ho fatto uno scambio per il ricevitore, ho dato una cosa che non mi serviva, anzi l'avrei voluta perché poteva essermi utile per altre cose, però siccome non ci possiamo andare lì, quando sarà me lo comprerò, cosa vuol dire, però mi serviva per il ricevitore. Sì, no, a me stavo un'altra cosa, non è roba riparata. Ma chi ne facciamo altro? Avevamo stati prima anche dei banchi, non sa. Io non c'è problema, sicuramente è una cosa che ti servirà, se no non avresti dato. Cosa ti arrivato in baracchini in base a te? C'ho due Intec, senza quattro canali, che mi hanno modificato tutti e due, il Kewood mi è rimasto, c'ho il 2009 che cambia solo la casa sua, che ha sentito il giorno Natale, e poi cosa? Galaxy 2, ok, non lo chiama lì. Ancora gli ultimi 20 secondi di passaggio non sei uscito in radio. Adesso mi è rimasto l'uscito, sì. Il Galaxy 2 ancora. Sì, ho capito. No, quello che sono in base è alimentato a 220, parlo io. Ma questo qui è solo alimentato a 220, sono le base, a parte il Kewood, che vabbè, c'è alimentatore. Mi fanno la riparazione adesso e poi lo ritiro. Ce lo sta riparando? Lo sto riparando io. Devo comprarmi un po' di condensatori e poi me lo ritiro a casa. Sono bene in giro di questi che viene una marea. Tu più sei chiede in giro, lo sai che veni giù a Sassari? Sì, mi hanno detto io se ne volevo uno di cose, 140, io tu quello me la faccio, non faccio niente, a me faccio quello che c'ho. No, 140 non mi piace, a meno che non sia un regalo, ma proprio non me lo comprerei mai il 140. Perché? Come si compra la chi, però, cerco mi apparecchi. faccia, ma non puoi riempirti la casa di malattia, a me non mi piace, io non sono fatto così, non sono appassionato di riempire la casa di malattia, mi prende solo le fette dei bellissimi. Vabbè, uno che ha soldi non sa cosa fare, quindi si compagna parecchi, non c'ha altre cose, potrebbe andare a fare, si copre i banchi, ma io preferisco da me andare a farmi una spesa, mangiare salsiccione, bistec, prendere una birra, anche la faccio comprare le malattie, non saranno. Ah, era solo quello con te, non c'è problema. Ma 140 non è mai, mi ma 140 non è, io l'ho provato, me l'hanno dato a provare, niente da che vedere con 440, non c'è la luce al 440, ma non ce la metto neanche vicino. Come ricezione, pari, ci sono dei, cioè, io ho altri baracchini, è molto superiore al 140 come ricezione. Beh, io c'ho 60, mi va bene, dove sono va bene. Non mi posso lamentare, cioè per i 15 anni stanno bene ancora, poi non lo so. No, non mi piace proprio la ricezione a me da 140, è troppo rumoroso, cioè tu fai confronti, io ho fatto i confronti con tutti e due, se l'antenna commutava da una parte all'altra, uno senti tutto l'altro muto, poi quando c'è un segnale debole lo ascolti con quello, l'altro manco vede niente. Io capisco, io mi accontento di quello che c'ho. Con la Mantova qui non potevo parlare, la verità, perché sentivo da tutto di quelle scariche elettriche da 15.000 anche Claudio, addirittura con 4.40, figurati, quindi no, qui il problema sono gli incanici dell'Ener. Quando mi fanno fuori io c'avevo quel RM0, lo dico io. Guarda la macchina, sono tranquillo, non ho nessun problema, con RM0, ricezione ottima, è il dominamento. Ah, c'hai problemi di QRM elettrico, siamo elettrico, di la 92. Sì, grazie, quindi il numero di QRM ci avevo qui quando io attaccavo da qua. Ogni giorno ero in bus, dovevo usare due antenne, una trasmissione e una ricezione. Se non sentivo nessuno. Figura, no, non sapevo che fosse così grave. Ma con la stazione elettrica l'avevo tu, l'avevo capito. Sì, da 15 anni stavo togliendo, ma loro è scelto il giornale, non ha mai fatto niente. Non l'ha giù preso, ma cosa ci fa in città, una cosa del genere, con tutto il traffico che c'è di persone, eccetera, eccetera. Hai visto il giornale di oggi, Aneuro, quello delle gomme? No, non ho visto niente, dimmi. C'è una pagina di cronaca di Sassa, li hanno fotografato, dove, lui l'ha visto dove c'è l'officina, diciamo, delle gomme? Sì. All'interno, dietro, c'è un cortiletto, che tra l'altro c'è scritto un cortile condominiale, non so che cosa, che io lo conosco, poi sono andato un sacco di volte, di dire, tutto pieno di gomme, e si stanno lamentando che secondo loro queste gomme inquinano, dite, ma l'altra travaglierà niente, futti di... E quello è la macronomiale, capito? Lo sai che tu, sai che uno che c'ha l'apparatore di te, che tu sei non te, che c'ha tutti i tutti quelli che ci sono stati dentro l'apparatore, per pezzi, cos'è inquinamento secondo te? Poi... Ma quello che ricordi è quello che avevano fatto per fare i vicini per tempo, non hanno fatto niente, anzi, hanno risarcito, se vuoi sapere. Non hanno fatto niente, siamo lì, io dicevo, io sono tecnico, e noi con i televisori siamo per pezzi. Io non è che ci buttavo, non stavo inquinando niente. Non lo so, purtroppo c'è gente ignorante, perché ma ti pare, cioè io parlo se butti vernice in terra, se butti olio, se ne metti acqua, se li trovi li castagni li rovini, ma cacca un copertone, si scioglie con l'acqua il copertone, se c'è un televisore si scioglie, non che non c'è la materia dentro di quelle al piombo o cose del genere, che con l'acqua possono reagire e succede qualcosa, ma un televisore lo prendi, lo metti in terra, lo lasci 20 anni e lo trovi da 20 anni uguale identico, non cambia di combinazione chimica, rimane sempre quello lì. Purtroppo c'è gente, quelli vengono usati i rifiuti speciali e vengono assimilati a quelli tossici. Così succede anche a noi. Delle cose, magari un pezzo di lamiera, un paraurti, cose del genere, devi mettere il registro di carico, indicare il carico, lo scarico, eccetera, eccetera. Se no viene considerato come equiparato a un rifiuto tossico. Ho ripreso, vabbè. No, io aspetto altri 5 minuti, poi me ne vado che mi voglio vedere il grande Milan e la grande Juve. A proposito del gommista, quella facciata l'ho fatta io. Quindi già lei visto le gomme dire, ma io dico lasciamo lavorare, se chi mi dici che ti butta tutta la mondezza tossica, ma una gomma è solo visivo, è un inquinamento visivo. Cava. In effetti non disturba nessuno perché è dentro un cortile. quello che a me mi dispiace, gli artigiani li fanno nuvi nuvi, tu quella petrolchimica che ha l'acqua di rose, lo fanno tutto, buttano gli scarichi, io ho visto delle pozze di acqua nera, putrida, schifosa, all'aria aperta, quelli non li toccano perché sennò devono chiudere lo stabilimento, ci sono mille famiglie che rimangono per la strada, quelli possono inquinare e fare quello che vogliono, scaricare al mare, tu se ti trovano con una batteria intera in officina, subito vengono e ti mettono la contravvenzione, la seconda volta ti fanno chiudere. Niente, cosa devo dire? Ok, dai, io vi saluto, faccio QRT, dai, che domani si trattacca. Antonio, ricordati di quella cosa lì, se te lo ricordi. Io la verità è sempre giù, ci vuole dire che ho la mazzetta, e se te la facessi spalletta, non c'è problema. Ok, dai, salutoni Robè, dai, io faccio QRT, dai. Salutoni anche a Toledo, salutoni a tutti quelli che ci sono da Roma e anche agli ascoltatori. Ok, QRT da parte mia. Sì, la ora che ti mandavi, la ora che ciao perché. Ciao, Natalia, domani si trabacca, bisogna andare subito. Ciao, Natalia, buon tutto, io chiudo e ce la riassoltiamo. A domani ci coincide. Ciao ciao. Ciao Jos. Avanti con me. Prego, scusa, mi ero dimenticato che c'era anche tu. Ciao Fabio, buon tutto, buona giornata per domani. Però c'era prima Massimiliano, io l'ho sentito un attimo, quello che era in chat non ha risposto. Vediamo se nel frattempo è rientrato. Attenzione Massimiliano, se ci sei batti un colpo. Nisba. Avanti, fate e fate a con lei. Un attimo e mezzo. Ok, ti ho chiuso, ti metto la tavola e tu, e io, Mario, mi sto facendo la roba. Qui è stato un break, avanti il break. Scusate se mi prometto, sono K2, informazione, si può parlare con Giuseppe? Con Bulldozer? Non lo so, ho fatto il cuore, Giuseppe. Ha detto, si può parlare con Bulldozer, così ha detto K2? No, con Giuseppe. Ma Giuseppe ha chiuso, lo proviamo a rilanciare un attimino. Giuseppe, ci sei ancora? Niente, K2, è andato via da un po'. E allora posso chiedere a te. Ieri stavamo parlando delle misure del campo dell'antenna. Se mi puoi dire la misura, io ne ho 10 metri e lo vorrei tagliare per risaldarmi tutto. Cosa vuol dire le misure del campo dell'antenna? Cosa non lo spiegati? Ci sono delle misure da seguire per avere migliori prestazioni col campo. Non è vero assolutamente, chi dice certe cose sono balle, sono sparate, non c'entra niente. Guarda che l'antenna si è accordata su quella frequenza lì e il cavo sia di quella frequenza antenna 52 ohm come l'apparato. Ne hanno detto, sono cose, voci, leggende metropolitane, ti leggo riviste, libri di materia e li smentiscono tutto quanto, sono fesserie queste che si dicono. Ah ok, allora posso procedere così. Vabbè, no, perché ho sentito ieri che lui aveva il foglio che gli avevano attaccato all'antenna e c'erano allora si è parlato più che altro per il discorso della macchina, di cavi di macchina con antenne magnetiche e cose del genere, lì devi starci un po' attento, devi fare delle prove, magari basta cambiare la lunghezza del cavo di 20 cm e magari ti riduci le stazionarie, ma quelli per altri motivi, se l'antenna è perfettamente a punto, con la giusta massa eccetera eccetera, il cavo è da 52 ohm e l'apparato è perfetto, non c'è nessun problema di lunghezza. Naturalmente più allunghi e più perdita di inserzione c'hai, però se tu rispetti tutti questi parametri non c'entra niente la lunghezza e non ti fa prendere in giro da nessuno. Il cavo è da 50 questo? I cavi sono tutti da 52 ohm, quelli che utilizziamo normalmente almeno su questi tipi di frequenze. Non c'è problema, sono tutti da 50, L58 il più semplice, poi per salire il G8, 213 e così via, fino ad arrivare al Cerflex che non è per noi però. Sono tutti 52 ohm, i cavi quelli che utilizziamo su questo tipo di apparati. Poi se dobbiamo avere la televisione è 75 ohm, se dobbiamo ascoltare la modulazione di frequenza può essere 300 ohm, 240 ohm, dipende da cosa dobbiamo fare. Qua ricorda che è sempre 52 ohm o 50 ohm detto comunemente. Ok, positivo. Dai, ti ringrazio, adesso provo a parlare. Non c'è problema. E chi c'è? Avanti, Natalino. E via. Stavo parlando con una persona al telefono e spesso ha espresso parere negativo. Per l'eventuale patente? E a lui non interessa, ha detto. C'è problema. Dai. Vabbè, ci mettiamo anche dopo uno di questi. Ho detto, se volete ne venga io, per me va bene venerdì, è buio. L'unico giorno che sono libero. Perché domenica sera va bene anche bene, potrei andare anche domenica sera, ma domenica domani devi lavorare e non va bene. Dai. Voi vedete voi Natale. No, devi mettere d'accordo tu con Salvatore. Salvatore c'è il numero di Gianni Capri 2 e vi dovete mettere d'accordo e mi fate sapere quando volete andare. Perché tu non c'è il numero di Capri? No, sì che c'è il numero di Capri, ma se non so cosa avete deciso voi bisogna andare al buio. Prima mi dovete dire quando volete andare voi. Mettiti d'accordo con Salvatore e poi mi fate sapere. E io telefono, ho telefonato a voi, non c'è problema. Anche se un po' ce l'ha il numero di Gianni, che glielo faccio io. Ah, va bene, dai, se tutto va bene, se riusciamo a organizzarci, se non ci sono impegni per nessuno, vediamo se per venerdì prossimo, dai, se no all'altro venerdì ancora, dai, già ti faremo sapere in frequenza o telefonicamente. Vediamo se è rimasto ancora Antonello, che stava aspettando a Mario Manzo. Vai, c'è Antonello. Certo. Andiamo avanti. FX10, si identico al mio, c'era anche Antonello, sono quelli che vanno per la maggiore perché li vendevano città mercato con Forama e Media, diciamo, ne hanno portato una varia di questi qui, anche in riviste specializzate ho visto ci sono già le modifiche di questi. Vediamo un pochettino così se possiamo anche fare altre cose. Dai, di nuovo QST, ciao ciao Natalino e Gianni Capri 2. QST definitivo a parte mia. Avanti già. Ok Natalino, i miei erano tutti in due. Stavo sempre più veloce, più la tarofa, stazionari e nuove altre che lo facevo sempre loro, perché adesso domani tutto il giorno in giro per gli uffici mi tocca stare. Ok, e poi la salita si scrive di nuovo con la disoccupazione, di arrivare all'occupazione di quello. C'è altra gente valida che non ne ha intenzione assolutamente, vabbè, vedi che vogliono partecipare, partecipino, gli altri si arrangeranno, cosa vuoi dire? Si va a scelto una salita, dice Vittorio, di 160 metri, su 80, 40 piega, c'era una preparazione a bomba lì, li ascoltavo, era collegato alla Grand Prix, quindi si deve mettere. Delle regioni sicuramente, perché tutta l'Italia c'era il contest oggi, ma non era roba di propagazione, linearoni questi erano. Fatto delle cariche, avevo mi serviva. VC312 hai detto, così? Guarda via internet, VC312, io ho anche le cuffie dell'epoca, c'ho cioè, del VC. Capito, guarda via internet, lo trovo, perché ci sono, questa cosa, che è quello. Ok, dai, vediamo un po' se ci trova, già me lo guardo. Questo a Natale a me mi manca il cofano, perché era installato, vediamo come si chiama, su un aeroplano quello qui. Poi era arrivato beta verde, quello di Alta Francesco, ed era installato, capito, in un aeroplano questo PC, quindi il cofano non ce l'ho, però il cofano lo busco io, non so anche come si chiama, perché questo c'è Alloni, che è anche un radioamatore, sui sicuri tuoi, non so, io ne ho sicuri tuoi, posso guardare anche l'indirizzo di questa persona qui. E lui ne avremo un sacco di questi PC. Sì, e adesso provo a darci un'occhiata, vedere com'è e tutto quanto. Vediamo un po'. Già quando accendo il PC già me lo ricordo, VC312. Ok. Questo è anche il collo, però il mio, diciamo, è stata fatta la modifica da Cali, perché funzionava a 12, funzionava a Cortina, io so anche il Dinamoto, che è illuminato, è Fiat Agi 91, il Dinamoto ha fatto la guerra, così era nell'aeronautica prima, e poi lavorava alla Lissarda, ovvio, prima di aprire questo negozio, in questo laboratorio di Piazza Francesco, quindi ne sa, e anche costruiva i lineari. E niente, un vittorio, non mi ricordo quanto è bella. No problem. Dov'è che sono andati a Usilo, Gianni? Con chi è andato, Gianni? Ce l'ho a casa.